Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Il 3 aprile del 1924 nasceva a Cincinnati Doris Mary Ann Kapeloff, nota al grande pubblico con il nome di Doris Day, grandiosa attrice e cantante dotata di una voce ed esuberante personalità. E ora ci ascoltiamo, tratta dal film di Alfred Hitchcock, L'uomo che sapeva troppo, una delle canzoni che l'ha resa celebre e che ce la ricorderà per sempre. Tanti auguri, fidanzatina d'America. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be. E che sarà, sarà, che sarà, sarà anche questa trasmissione. Benvenuti, signori, in questa domenica del 3 aprile 2016, Voice Anatomy. Pino Insegno ai microfoni di Radio 24, già il primo ospite che non ha 92 anni. No, un po' meno, un po' meno. Come Doris Day. Sì. Lui nasce a Napoli nel 1961, quindi fa di conti. 4 novembre. Beh, sì. C'hai due anni meno di me. Beh, certo, sono anche molto più bello. Sì, no, questa è la radio che te salva. Certo. Non lo sanno dalla voce, poi ogni tanto faccio anche di indovinelli, puoi dire ciò che vuoi, ma ti conoscono. Certo. Come dirò il nome. No, vabbè, ti cliccano e lo sanno. Dimenticate quello che vedrete. Attore straordinario, regista molto bravo, con il quale ho avuto anche il piacere di lavorare, ma ne parleremo più avanti. Come ho detto, nasce a Napoli, la grande, grande Napoli, anche se oggi sappiamo che il risultato non arriva, a meno che non sia cambiato qualcosa. Speriamo, ma non credo, purtroppo, drammaticamente non credo sia molto cambiato. Non dirlo a me, oggi è una domenica e preferisco stare per radio. Infatti non volevo proprio uscire. Vabbè, esatto, non volevo proprio muovermi. Figlio di un altro grandissimo attore di teatro, sì, il grande Antonio. E che neanche lui ce l'ha i 92 anni, eh? No, lui, no, manco no, lui ci è arrivato ancora. No, quanti anni ha papà adesso? Papà ce n'è 85, va per gli 86. Questa gente è come mio padre, 85, devi proprio mirarli bene per farli fuori. Sì, sì, ma non lo becchi, no, perché è velocissimo a scansarsi. Lui è ovviamente Maurizio Casagrande. Grazie Maurizio. Io, grazie a te, con grazie l'occasione a di ho saputo con i nostri autori, con Alessia Navarro e Damiano, che eri qui a Roma al Teatro Golden a San Giovanni, un teatro bellissimo che funziona tantissimo a Roma. Che mi piace molto. Da stasera, da oggi, no? Da oggi pomeriggio anche tu, perché anch'io devo ricorrere al teatro. Sono già, già debuttato. La settimana sì, però ho lo spettacolo tra un po', quindi come tutte le domeniche pomeriggio si va a fare lo spettacolo. Io devo fuggire da qui perché anch'io ho lo spettacolo alle 5, ma comincerà un po' più tardi. Beh, il tuo sì, il mio no. No, tu no, tu no. Ti libero fra poco. Certo, per forza. La musica mi gira intorno. E la musica mi gira intorno, sì. Com'è? Mi stavi dicendo che il Teatro Golden poi è molto particolare perché è tipo un ring, perché sì, la gente ti sta tutta intorno e la musica ti gira. E la musica mi gira intorno, compreso il pubblico. Per cui l'orchestra. Sì, sì, c'è una band, è uno spettacolo, diciamo, a sfondo musicale. Io dico che c'è una sorta di colonna sonora circolare, perciò gira intorno, okay, perché non è proprio centrale allo spettacolo. Le musiche sono originali oppure... Sono tutte canzoni. Io gioco su un fatto che ho letto da qualche parte su una rivista, che un uomo senza passato è un uomo senza futuro, e un mio amico che stava con me in treno dice: allora tu sei morto. Che dico: perché, scusa, ma perché tu non ti ricordi manco che hai mangiato ieri? E quindi no, dice: non avere un passato, mi disse questo amico, sì, o non ricordarlo è la stessa cosa. Al momento mi sembrava una battuta, poi ci ho pensato. Perché su non cambi giro di amicizia o cambi comunque la tratta del treno? L'hai eliminato. Sì, sì, ho cancellato anche il numero. C'è gente che dice che il futuro non esiste, è solo il presente. Esatto, perché in effetti è quello che vivi, il futuro. Però dicono pure che non esiste il presente perché è già passato mentre sta succedendo. Il passato non conta, insomma, noi non ci siamo, ragazzi. Benissimo, allora signori, arrivederci, è stata una bellissima puntata. Voice Anatomy finisce qui. Alla mia destra invece un amico che conoscete perfettamente, che ogni tanto anche lui quando capita a Roma, da quel di Lugano, da tutti i suoi impegni di venditore vincente, ci accompagna perché è un entusiasta di questo ambiente. E poi vorrei che cominciasse a fare un po' il tutorial del vero venditore vincente, di come ci si presenta, eccetera. Lui è Frank Merenda. Ciao a tutti, io volevo dire che rimarrò qui quando voi due dovete andare via, mi avete detto no, quindi rimango io in trasmissione, che tranquilli. La chiacchiera non ce l'hai, tu come vuoi sanato, a te non ti interessa, non è uno che parla. No, non ci riesce proprio. No, lui se ore sul palco sì, e... Sì, sta zitto. La cosa che Mimo, no? Sei un mimo. Il gioco sì, del silenzio, sì, sai sì, come sì, alle elementari, Gessetti, mettevi... Tutto zitto, sei ore là. Che poi Frank Merenda ti viene... Ti aspetti che uno cominci a parlare... E noi auci siamo, capito, in questa maniera. Invece Migna, è vero. Vi farò un'offerta che non potete rifiutare. Ma come l'ha detto? Perché lui è Teccio fratello. Ma come l'hai detto? Che ne so, sei di Sassuolo, senti, l'unico parere che ha vinto in questa domenica particolare. Maurizio, io no, non lo sapevo, ma tu nasci come musicista. Sì, prima di fare l'attore facevo il musicista ed ero batterista. Batterista. Sì. Ma ti voglio dire una cosa divertente, perché questo spettacolo nasce da un fatto. Io negli anni 80, alla fine degli anni 70, uscì un brano dei Toto, sì, che si chiamava Rosena, non so se ve lo ricordate. Roxana, che era molto carino, con altre note meravigliose, esatto, più o meno, diciamo, mo se stanno sentendo qualcuno dei Toto tu vedi una denuncia, però già, insomma, già due se ne sono andati per altri motivi, cioè, fortunatamente per loro i fratelli Porcaro, un paio se ne sono non aperti, hanno dovuto sentire questa cosa, però gli altri potrebbero sentirla. E comunque uscì un brano che si chiamava appunto Rosena, e c'avevo uno shuffle di batteria, una terzina molto particolare, che i miei amici batteristi ci guardavamo e cercavamo di capire come si faceva. Questo brano non riuscivamo a capire com'era, e io ho smesso di suonare la batteria, sono passati gli anni. 2-3 anni fa becco un tutorial di Jeff Porcaro, che spiegava come si suonava questo brano, per cui dico, madonna, 30 anni dopo imparo a fare questa cosa, e dico, e mo mi devo inventare uno spettacolo per suonarla. E poi, come lo chiami? La terzina di Porcaro? No, e la musica mi gira intorno, e lo spettacolo faccio nasce da questo. Da questo? Sì, perché a un certo punto suono anche la batteria in questo spettacolo. Devi, tu e Verdone siete gli artisti che suonano la batteria, ogni tanto lui si diverte con Venditti. Io senza Venditti mi diverto. Venditti che... No, io non Venditti niente. Esatto, a proposito di Venditore Vincente, che tempo è? Un passato Venditti è un passato remoto. Venditti remoto. Venditti una volta. Esatto. Una volta si vendiva, ma adesso non si vende. Adesso si vende molto poco. Adesso non vendi niente. Adesso c'è la crisi, voglio io, non si vende più niente. Dio, no, ma fanno pure danno davanti a te. No, brutta, questa cosa è brutta. È una cosa brutta. Questo è compagno di merende, questo qua. Sì, è pericolosissimo. Senti, ma ti è mai capitato di suonare con qualcuno invece di importante, con un musicista? Guarda, mi è capitato qualche volta, per esempio Salda Vinci, che ha fatto un concerto all'Arena di Napoli. Sono salito sul palco, finto di dare delle gocce di Guttalax al batterista, facciamo tutta una gag su questo, e lui dovette allontanarsi di corsa e io mi sono messo alla batteria, ho suonato un brano, è andato fuori a darsi delle arie. Esattamente. Un momento così a chiudersi in sé stesso. Per cui hai cominciato con la musica. Papà anche era musicista? Papà è addirittura mio padre più musicista, perché era un cantante lirico diplomato al conservatorio in canto, e lui ha cominciato con la lirica, pensa che è andato anche in Russia, ha cantato lì. Era un basso buffo, come viene definito. Tu hai altri in famiglia, fratelli, sorelle? Questo non lo so, te lo chiedo. Sì, sì, c'ho una sorella, ma guarda che devi sapere una cosa, che io quando sono andato alle elementari, io lì ho scoperto che il mondo non era fatto di gente che suona. Sì, perché tutti intorno a te. Intorno a me suonavano tutti, ma anche i vicini di casa, anche questo, mia nonna. La musica ti gira intorno, sempre, anche sempre. Per questo. Sì, anche per questo. Per cui sei nato, ma sai, Napoli non è difficile pensare a una cosa del genere. Napoli è musica anche nei vicoli. Assolutamente. Insomma, la musica ti gira intorno spesso anche quando vuoi dormire e qualcuno sta sentendo esatto, a tutto volume. No, ma è quello. Ma abbiamo studiato anche la vocalità del fatto dei venditori a Napoli. Beh, ce ne sono alcuni che fanno delle cose magiche. Sì, sì, ma anche poi non lo sanno, involontariamente utilizzano la sovraclottite piuttosto. Bravo, esatto. Sottoglottide, dei suoni particolarissimi che per farli alcuni studiano 300 esatto, anni, e quello lo fa per vedere delle voci impossibili. Sì, le sonorità di Napoli sono straordinarie. E poi il sodalizio, tu quando hai cominciato nel cinema, hai cominciato insieme a Vincenzo Salemme con questo sodalizio, o hai fatto già delle piccole cose? Avevo già fatto, perché c'è sempre stata in Italia una dicotomia che io trovo irritante, cioè attore di cinema o attore di teatro? No, vabbè, attore comico oppure attore di... Sì. Attore, se uno sa recitare, se no. Se uno qui è di zona Roma, attore Mauro, attore spaccata, attore argentino, attore Bella Monaca, hai capito? Allora, il problema è proprio quello, che come sempre io ero un attore di teatro, quindi facevo tanto teatro, per cui mi snobbavano un po'. Napoletano, il teatro in lingua oppure di tutto? Di tutto, però poi non ti facevano fare i film perché dicevano che recitavi. Sì, dicevo, mi pagano per farlo. Esatto. No, ma devi essere più naturale, perché c'è stato un momento del cinema italiano che essere naturale significava che dicevi dice una scena d'amore. Questo era il tono medio. Quello adesso delle fiction è quello. Più o meno. Beh, lì per una questione di tempi. Sì, no, perché che non hai manco il tempo di capire bene che stai dicendo con i tempi di produzione. No, perché soprattutto gente che non è preparata a poter recitare, che fanno dobbiamo andare. Ti ho detto mille. Che così. Oppure. Ma perché... Io ti voglio bene, capito? così allora pensi che c'è il televisore rotto da vicini, dici ma sarà un problema mio, invece è rotto l'attore. Per cui subito teatro, subito musica. Per cui appunto con Salemme invece abbiamo cominciato una storia di cinema più importante, importante. Che era L'amico del cuore, il primo L'amico film. Del cuore, sì, sì. Che bello. Siamo arrivati già al primo stop, noi cioè abbiamo soltanto due blocchi con sto signore che mi deve andare a teatro, ma insomma. Questo qua è fatto perché così. Poi voglio parlare di questo gruppo, i Tetra Neon. Tetra Neon, che meraviglia. Questo gruppo musicale. Sì, sì. Tetra Neon, che poi sai il nome di un pesciolino? No. Perché è un pesciolino d'acquario, perché noi stavamo decidendo come ci dobbiamo chiamare, come ci dobbiamo chiamare. Io fumavo all'epoca, e tutti quanti a fare che cosa facciamo. A un certo punto tenevo questa scatola di cerini in mano, ma come ci possiamo chiamare? E vedevo questo pesciolino sulla scatola di dipinto sulla scatola di cerini, giro, Tetra Neon, il nome del pesce. Ragazzi, ma se ci chiamassimo Tetra Neon. Io non so cosa fumavi all'epoca, comunque non stavi benissimo. E non lo posso dire, non lo posso dire. Tra pochissimo, Voice Anatomy è appena cominciata. Pantera col TH, l'IRP di Infracomitalia, anche in cloud. Vi presenta. Voice Anatomy. Eccoci di nuovo, Voice Anatomy, vicino a me l'amico e l'attore straordinario, l'amico ecco. Maurizio Casagrande, rimarrà ancora con noi almeno un quarto d'ora e poi correrà di corsa a Teatro Golden, il mio accompagnatore, qui siamo il gatto e il gatto perché la volpe non c'è, Frank Merenda. Che è scappato, poverino. Mi fa da tutorial, mi accompagna in questa domenica, qualcuno ti fa i complimenti Maurizio, incredibile. Grazie, è incredibile, veramente. Io aspetto sempre qualcuno che attacca, io lo dico sempre che quando stanno dei messaggi cattivissimi mi piace molto di più leggerli, lo dico ogni domenica, c'è stata una persona alla prima puntata ha detto finalmente Pino Insegno la domenica in questa trasmissione così posso fare pulizia di casa perché il mio aspirapolvere c'ha la stessa voce. Questa ve lo dico ogni domenica, è bella, bisogna ricordarla. Devo dire la verità, è bella. La puntata domenica scorsa dicevi che era in diretta, a me sembrava registrata, inoltre eri meno attivo e vivace del solito. Beh sì, sì, era mezza registrata, mezza no, era Pasqua. Pasqua, quello sì, questa ovviamente non avevamo i vostri messaggi, te ne sei accorto, sei un grande ascoltatore e io ti rispetto. Bene, chiarissimo, questa trasmissione squisita, elegante, grazie per quest'ospite straordinario, bravo Pino, ma forza ma beh che dai, ma insomma. Ma ha ragione, dai. Mi dice, ma no, smettila tu. Ha ragione pure. Ma tu dai, sei solo, Napoli, state buoni, ciao domenica, lasciamola. Sassuolo ha vinto, ma che vuoi? Ma niente, ma guarda, la trasmissione sportiva con i nostri amici, i moschettieri, va dopo, adesso è vero, no. Mi dicevi poco fa, parlavamo di questi Tetraneon, la band. Mi diceva poi Frank che quel pesciolino fluorescente che io non frequento. Mari del sud, no. I pesci non ti interessano? No, no, non quelli d'acquario, per lo meno. D'acquario, no, Maurizio, no. Sto dicendo, non quelli di acquario, perché è un pesciolino che non c'è nei nostri mari. Mi scappello a lei, Maurizio. Ricordo che sono signore, 15... siamo in fascia protetta. 14:48 e 02 secondi per dire che siamo in diretta. Ci fanno i complimenti e ci uccidono adesso. Dicevi che avete fatto un'opera rock. Sì, scrivemmo un'opera rock che era il ritorno di Cristo. Era il periodo di Jesus Christ Superstar. Sì. E noi scrivemmo un'opera rock che era il ritorno di Cristo sulla terra 2000 anni dopo, che rimproverava e litigava con gli uomini perché insomma riteneva sprecato il suo sacrificio. Ma è una cosa importante, molto importante. Per cui era seria, insomma. Sì, sì, seria, ma è rock nel che senso anni erano? Stiamo parlando del 77-78. Per cui gli anni proprio della controrivoluzione, dopo il 68 ci fu il 77. Esatto, per cui... anni là, ma noi abbiamo chiuso. Il liceo, perché io il 77 mi diplomavo, ero 18 anni, tu c'hai 15. Sì, sì. No, io ce n'avevo, il 78 c'avevo 17 anni. 17 anni. Quindi ero proprio un ragazzino, però insomma. Opera rock in italiano o in inglese? No, in italiano. Sempre era... con il tuo gruppo musicale? Sì, con questi Tetra Neon. Non c'è niente in giro che si può ascoltare. Guarda, allora devi sapere che tra l'altro è scomparso uno dei componenti che era un amico carissimo, certo, che purtroppo ci ha lasciati, e proprio lui aveva qualche cosina nascosta. Mo spero che adesso si ritroverà un po' di materiale, perché c'erano delle cose interessanti. Rispecchiarsi lì. Poi tu hai navigato insomma vicino a tantissimi grandi attori, insomma, sì, a parte l'amico Vincenzo Salemme che salutiamo e abbracciamo forte, tu sei stato vicino anche a Gigi Proietti. Come no, abbiamo lavorato col mitico Gigi, con cui lavorare è un'esperienza ti fa capire, sì, è divertente, ti fa capire che si può fare questo mestiere fino a età avanzata, cioè quindi sì, oltre sì. i 18 anni, continuando a divertirsi. Sì, lui sì, si diverte in scena e fuori in scena. Soprattutto fuori lui è no, straordinario, lui è una perché barzellette... barzellette, canta, fa sì, di... no, fa di tutto. Cioè, è un... E tu dici, vabbè, perfetto, ed è ancora qua, arrabbiato come manco. Un... Esatto, è arrabbiato come un pischello, come un bambino, sì, senza lui sta lì e combatte. No, è fortissimo. Infatti, io l'ho detto, infatti verrà quanto prima, ha partecipato tanto... telefonicamente quando abbiamo sì. parlato della Disney, ma verrà anche perché voi Sanatomi senza la sua di voce e che facciamo? Che poi il grande Gigi Proietti scoprono adesso che ha doppiato Rocky 1, che è lui il grande Gigi, il grande stallone di quel periodo. Per cui dopo Gigi Proietti ha fatto con lui hai fatto mi sembra il Signore della Truffa, credo ah, che si chiamasse. Della Truffa, sì sì, e poi anche hai fatto anche Carabinieri, facevi sì, sì, sì, sì. Bruno Morri. Bruno Morri. C'è scritto tutto, eh. Totò Esposito si chiamava il personaggio che ha interpretato con Gigi, con Gigi. Questo, poi, questo signore che gestiva poi questo poi hai fatto bar. Un film straordinario con un attore anche straordinario fra i tanti che avevi all'interno di questo film questo non me lo ricordo è Una donna per la vita sì, però questo attore straordinario non riesco no, a capire no, no, chi no, bravo c'era solo un momento nel film sì chi di, ma è un film dove prende proprio quota dove la gente ma forse non riesco proprio a dove capire. La gente se ne andava dal cinema forse. Lì capì. Ah quel momento che si il film fu giudicato male sopra soprattutto per quello per colpa per quello, di quell'avvocato che è successo. Ma qui mi canti in questo spettacolo? Canticchio, sì sì sì, io sono ma ho un passato. Vabbè, sei intonato ovviamente, essendo sì, un musicista e sì. un attore. Quindi sono discretamente intonato, però diciamo che la parte del leone le fanno due cantanti che sono Roberto Andreozzi e Maria Teresa Amato che mi fanno da partner, non solo canore ma anche recitative perché ci sono dei momenti in cui racconto delle scene. Lo spettacolo è molto divertente. Venire, ma stiamo in scena in parallelo, santa miseria. E io non riuscirò a vedere il tuo. Cioè, sì, però tu ogni tanto sei venuto, anche ci siamo incrociati sì, sì. Molte, ogni volte tanto. Senti, lo sliding doors della tua vita, bella sta parola. Cioè, il cambio, quando è stata la svolta? Quando la svolta, hai capito? Ho capito la svolta e lo racconto anche nello spettacolo, perché lo spettacolo vedi. È in qualche modo autobiografico, io racconto la mia sì, vita. Sì, sì, non è autocelebrativo, ma è autobiografico. No, no, no, l'ironia che tu c'è hai. C'è poco da celebrare. la sliding door è stato un arresto. Di un sì sì proprio un arresto sì, con sì, le arresto con le manette per errore di uno degli allievi della scuola di mio padre cioè? Io facevo davo una mano come insegnante di solfeggio e musica uh-huh. nella scuola nell'accademia si chiamava Accademia Teatrale del Mezzogiorno uh-huh. e fu arrestato questo ragazzo la sera del saggio per errore e chiaramente poi fu rilasciato un paio di giorni dopo ma troppo tardi per il saggio e io presi parte al saggio al suo posto col copione in mano per dare le battute agli altri e lì e fui scritturato è nata una stella come succede veramente così. Nei film sì, sì, quelli sì, tipici io così ho si è ammalato il primo attore sì, chi sì. c'è vieni tu esatto e lì sì, sì. è la compagnia di Nello Mascia tra l'altro beh, grande Nello Mascia esatto, ci sono ancora le prove di questo per che cui bello. Ho cominciato a lavorare lì vedi uno dice beh, la fortuna però la fortuna devi trovare anche la valigia piena non è soltanto fortuna qualcosina da dire diciamo. Sì qualcosa da dire c'è e chi devi ringraziare nella tua vita per tutto quello che stai facendo, per quello che hai fatto. Beh, parte ripeto, la famiglia, credo che la sì, tua famiglia. Io credo, innanzitutto mia madre, sembra una sciocchezza no. classica dei mammoni, ma io non sono mai stato un mammone. Mamma non c'è più, vero? No, non mamma. C'è più purtroppo. In compagnia con la mia, esatto, con tante mamme. Si stanno divertendo là sopra. Esatto, stanno dicendo, mio figlio è più bello però del tuo, esatto, sicuro. Però guardi che quella fatta delle cose. Saranno a litigare. Sì, sicuramente. E mamma niente. Ha creduto subito. No, no, non è questo. Io penso che un genitore sano ti dà tutte le occasioni. Ecco, mia madre non mi ha mai ostacolato. Mia madre voleva che io lavorassi in banca, perché mia madre certo. lavorava in banca E io studiavo ragioniere. Oddio. Quindi e non ragionavo per niente. Non abbiamo mai smesso di mai. Non ragionare. E questo però, lei ci teneva tanto. E sai come si faceva, no? Che si andava in pensione prima, dicendo certo. alla banca vado via prima. E così può entrare un parente. Esatto, sì. no? Era più o meno questo il sistema. E quindi era tutto pronto perché accadessi. Quando arrivò il momento in cui le cose dovevano succedere, io dissi, mamma io non ce la faccio. Oh. Tragedia. Mamma delusa e papà. Mamma delusa, no, mio padre non gli fregava niente. Ah, no, non volevo. No, no, mio padre è sempre stato molto, diciamo, amico più che padre. Ah. E quindi era così, gli andavo a dire le cose, ma no, era mia madre il problema. Invece non solo ha capito questo grande passaggio della vita, ma lo ha anche in qualche appoggiato. Modo appoggiato. E mi ha dato, soprattutto da bambino, la possibilità di conoscere. Io credo che non puoi sapere che vuoi fare se non sai che c'è. Che bello, no. Hai avuto il piacere di vederla che ti applaudiva? Eh beh sì sì c'è stato sì, quello sì, è sì, sì. ampiamente. Ed era mamma dopo gli spettacoli come la mia, che tu stavi con i giornalisti e lei arrivava a fare domani, mangi a casa. Esatto. No, lei faceva un'altra cosa. No, no. No, voglio sapere, per fare la spesa. No, no, invece mia madre faceva un'altra cosa. Stava in sala e riusciva, io non so come, a far sapere a tutta la platea di essere mia madre. Che bello. Ci riusciva, lì è mio figlio. No? Non faccio... mio figlio! Un po' come facciamo noi doppiatori quando andiamo al cinema e siamo noi magari i protagonisti di quel film, allora parli, fai... verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Dice, ma cazzo, ma allora c'è sta quello, queste cose, ma le madri sono sì. Poi madre napoletana è chiaro, vera, per cui tridimensionale. Ti piace questo grande Maurizio Casagrande? Maurizio è straordinario, fa morire, cioè veramente, veramente oltre. Poi ha umanità vera. Sì, ma poi ha, è veramente tridimensionale, tra l'altro, come artista, nel senso che magari qualcuno come anche te, no? Cioè, conosce la persona, qualcuno lo conosce solo per un certo tipo di esperienza, qualcuno lo conosce solo a teatro. Ed è in Italia è abbastanza strana questa cosa, perché all'estero invece le persone sono famose per tutti i ruoli tutti che fanno. Mentre in Italia qualcuno, per esempio, no, conosce Maurizio per il teatro, poi lo conosce solo per quel film che ha fatto. Certo. Perché... E invece, quando poi tu hai modo di conoscere la persona, vedi proprio la tridimensionalità, la spontaneità, la bellezza proprio vera della persona. Lui, no? È come il più bel complimento che tu puoi fare a una persona: è tu sei uguale, cioè uguale, ma uguale a te stesso, uguale a quello che ho visto in televisione, uguale a quello che io ho visto in teatro. Sì, siamo arrivati al termine di anche questo secondo blocco. Significa che devo salutare l'amico Maurizio Casagrande. Sono felicissimo di essere stato qui, perché come sempre siamo benissimo. Sì, no, ma sai, l'affetto profondo, ma poi si sente, non è la falsità, è il momento. Ciao, buonasera, bacetto, è stato ciao. Bellissimo. E allora, fino al 17 aprile al Teatro Golden, la musica mi gira intorno e noi ti gireremo intorno, caro Maurizio. Grazie. Bene, e io girerò intorno a voi, tipo i moscerini sulla luce. No, uno si sta uno schiaffo e lo uccide, no. Maurizio Casagrande, ciao. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori, Voice Anatomy. Sono le 15:00 e 29 secondi, assolutamente in diretta. E vicino a me mi ha raggiunto un'amica attrice, doppiatrice, direttrice. Sapete, normalmente cominciamo con i doppiatori. Oggi abbiamo cominciato con Maurizio Casagrande perché doveva fuggire a teatro. Oddio, anch'io alle 5 devo stare in teatro, ma comunque. E lei è parte di una famiglia straordinaria. Sono proprio attori di professione, doppiatori straordinari, figli d'arte, non come me, figlio d'altri. Lei è figlia del doppiatore Aleandro, non dico Aleardo, esatto. Questi nomi antichi, veri, Aleardo, che non si usano più. No. Ed è sorella di grandi doppiatori anche lei, di Luca e Andrea, esatto. Insomma, il cognome è quello con la W doppia, dai, viva. Esatto. Ward. Spesso dicono Ward, insomma. No, dai, Monica Ward. Sì. Grazie. Tuttora. Grazie a te dell'invito. Ma ci mancherebbe altro, stiamo facendo questo percorso. D'altra parte sempre il mio accompagnatore, che ormai mi ha dato l'accompagno, che è Frank Merenda, con il quale poi parleremo più tardi, ovviamente, del venditore vincente e di tutto quello che sta combinando in giro per l'Italia e per l'Europa e anche nel mondo, nella galassia, nell'universo. Sì, dipende, sì, un po' da me, io vado. Poi, siccome lui è un amante del doppiaggio, della recitazione, ovviamente quando sta a Roma, a parte venire qui da me, è qui pronto anche a fare delle domande. Monica, quando hai cominciato tu? Perché voi avete di famiglia, sì. Senza che vi dicano adesso i messaggi, le famiglie, le lobby. No, non è così. No, se uno c'è un padre notaio, cercherà di far notaio, certo. In qualche modo. Ma soprattutto sai meglio di me che il nostro è un mestiere che si fa per meritocrazia, nel senso che se poi non c'è un'attitudine e comunque del talento, non si può fare, non si può ingannare, soprattutto col doppiaggio. No. E... puoi conoscere una bella ragazza o tu un bell'uomo, ma non puoi portarlo il giorno dopo a fargli fare un turno di doppiaggio. No, assolutamente no. Infatti, dall'altra spesso... parte c'è tuo figlio. Ho visto tuo figlio, sì. Prendersi il tuo fidanzato, cioè, esatto. Quanti anni ha? Ha 24 anni, ma l'hai fatta a 13 anni, cioè sì, era abbastanza piccola. Ecco, comincia con le sue vocette inconfondibili. Sì. Almeno c'è qualcuno che timbra in famiglia. Santa miseria, e infatti lui timbra molto più di me. Sì, E quando fa i doppiaggi gli dicono sempre no. Alessandro, troppo. E lui, ho detto, tu non hai bisogno di timbrare. Ha preso perché... da un zio pure lui. Sì. Che poi sta in giro in tournée, mi ha detto vengo. Quando finisce questa tournée, Luca? È da fra poco. Fine aprile finita, quindi insomma, se lo chiami, figurati, sarà felicissimo. Mi parlerà di dentro qua. Sto microfono, ci farà una pomiciata col microfono. Al suo segnale scatena qualsiasi cosa ormai, sì. Luca. Che io poi lo prendo sempre in giro perché giochiamo spesso quando ci incontriamo, almeno lui quando recita riesce a timbrare anche col fiato. Se c'è la musica, c'è un treno, c'è l'aereo, tu devi fare allora da questa parte, e lui basta che fa sì, ti raggiungo. Cioè, se sente e va in puzza, dice perché lui non strilla e se sente, capito? Sì, ma allora però, è così, sempre per tornare al talento. Avete cominciato puro. Nello stesso momento, ma da bambini immagino, con un papà da piccolissimi. Mamma sì. No, mamma non mamma, fa parte. Mamma aveva fatto l'accademia anche lei come attrice, per cui si respirava quest'aria già dall'inizio, sempre da generazioni, anche mia nonna, la mamma di mio padre, e poi noi chiaramente ci siamo ritrovati a sono fare i doppiatori questo... della prima generazione, poi esatto, papà, prima proprio... generazione, perché parliamo i genitori di mio padre sono stati quelli che gli sono entrati 30. Esatto, nel sonoro, quindi veramente quando la prima è nato il doppiaggio. Esatto, lei, Carletto Romano, storico attore, certo, bravissimo, i Cigoli, tutti questi, esatto, Sibaldi, sì, eccetera, sì, grandissimi attori, artisti, che paghi, veramente, che pagheresti per... tu c'è, sei riuscita a sfiorarli qualcuno di io loro? Io sì, infatti ecco questa cosa che dico sempre anche ai ragazzi, che noi abbiamo avuto la fortuna come anche te, no? Avendo... beh, io qualcuno sono venuto, sì, negli anni 80, all'inizio degli anni 80. Sì, però avevo grande, l'altra generazione, i Barbetti, Pinolocchi, eccetera. Esatto, sempre anche dei grandissimi, sì, no, grandissimi. Attori e artisti. Ho avuto la fortuna veramente da piccola di lavorare vicino a persone straordinarie come Marcello Mastroianni, come Fellini, come Alberto Sordi, proprio in sala di doppiaggio, come De Sica, per cui in effetti si respirava un'aria. Per cui non solo hai respirato i grandi doppiatori, esatto, attori, ma hai respirato anche i grandi registi. I grandi attori degli anni 50, e devo dire che questa cosa poi secondo me rimane nel proprio modo di essere, sia come artista che proprio come persona stessa, perché loro ci hanno comunque tramandato delle cose, dei valori che oggi non esistono più, anche il modo di lavorare, questo modo così accurato, cioè una volta... grande divertimento, esatto, nel lavoro. Ma divertimento non vuol dire ridere di quello che stai facendo, significa proprio amare quello che amare stai profondamente il proprio mestiere e farlo in un certo modo. Cioè all'epoca Fellini io... e Mastroianni, dove elenco, che film era? Guarda, io ero piccolissima, che poi era un film senza copione, perché Fellini, esatto, faceva così, e spesso e volentieri noi andavamo in sala e doppiavamo. Io ero piccolissima, avrò avuto 5-6 anni, quindi non sapevo neanche leggere, e mi... tuo fratello pensa, cioè, quell'età mia e ancora non sa leggere, se ci sta ascoltando Luca. Io devo vendicare. No, lui no, non sa leggere. No, non sa proprio leggere, no. È rimasto così. Vero, qualcuno glielo riporterà sta cosa. Certo, assolutamente, io sarò la prima. No, lascia stare, passa no, parola radiofonica. Così dovrà venire qui in trasmissione dimostrare, esatto, di saper leggere due righe, no, in croce. E lui mi dirà, tu non sai recitare affatto, allora. Non riesco a farlo, Word, non ci riesco. O farà lui se stesso, farà quando verrà. Sì, certo, ma poi mi fate però morire. Però dopo facciamo entrare tuo figlio, però. Dopo. Sì, sì, tra l'altro lui e anche l'altro due vero, attori tu giovani. Due creature di... Sì. L'altro c'ha un inizio di prostatite, quanti anni ha quell'altro, esatto, scusa? 20 anni. Ma dai, ma tu sei una bambina! Tempo fa sono andati a fare un'audizione al Sistina e tutte e due hanno portato due testi scritti da loro, perché sono due attori brillanti, comici. E scrivono. Esatto, e il regista gli ha fatto, dico, ma scusa, al piccoletto che aveva all'epoca 19 anni, vabbè, l'altro anno, quanti anni hai? E lui fa... 20. Il regista fa, ma pensavo che dopo avessi avuto più o meno una 60ina d'anni, perché sono la tipologia di testa di e pensiero, quello che aveva portato, diciamo. Quindi anche lui, mio figlio che adesso mi ha voluto accompagnare, lui è la voce di Flash, per tutti gli ascoltatori, abbiamo un supereroe, vieni giovanissimo. Vieni di qua, ehi. Mia moglie mi chiama Flash, ma per altri motivi, vieni. Ma viva Dio, no, che no, ti chiama Flash per altri motivi, adesso ce li dovrai raccontare in diretta. No, era un gioco, era il piacere della battuta. Hai capito che famigliola? Dimmi, Frankie, merenda, intervieni, che vuoi fare? No, gli volevo passare il microfono. No, adesso c'è l'altro microfono, te lo metti. Guarda, lì vicino, viene vicino a te, ecco, a scansa. Io me scanso. No, c'è l'altro microfono, funziona, ne abbiamo, Radio 24, insomma, è ricca. Alessandro, vero? Sì. Alessandro. Sì, ciao. Eccolo, alleggerita la voce. Meno male, c'ha la faccia. No, santa miseria. Dai, per tutti gli appassionati di Flash, sì, come una dice serie questa, che ecco, sta andando tantissimo adesso su Mediaset, insomma, i giovani sicuramente riconosceranno la voce, appunto. Com'è di... Flash? Per capire quello che sto per dirvi dovete prima fare una cosa. Dovete credere nell'impossibile. Mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo più veloce del mondo. Ecco. Io sono Flash. Ma io stavo guardando l'altra sera. È lui. Hai capito? Ma tu vedi quando gira Cadutina Rossa? Lì l'hanno arrestato, perché poi noi siamo convinti certe volte di essere noi i personaggi reali. Esatto. Tu esci dal Signore Anelli e continui a fare però che venga. C'è Luca Ward, c'era il periodo che doppiava il corvo, ma era più essere che se stava a pisolare sui palazzi. Soprattutto quando pioveva e si incazzava, diceva: non potrà piovere per sempre. Hai capito? Ma è così. Luca è peggio di me. Luca, mentre doppiava, scusate, parliamo di Luca, ma no, è fratello, vabbè, normale, per me normale. Ed è un fratello e uno zio per loro vero. Però quando lui doppiava James Bond e 007, si è fatta la motocicletta, la targa era 007. Ed è vero, è una vero, cosa assurda. Cioè lui supera se stesso. Se stesso, vero. Capito? Ma lo fa con un entusiasmo da bambino. Io lo amo, perché non è... Ma anche, no, anche la sua mail è così, è 007, giusto? La giusto, mail sì, è, sì. E no, beh, per così, forza. Sta così, se sta bene, sì. No, però, capito, è vero, poi lui è un attore e l'ha dimostrato e lo sta dimostrando, sì, con degli spettacoli bellissimi da sempre, ma lo vive con l'entusiasmo di un bambino. Non è vero, citazioni, sai, cammina mentre stiamo al cinema, come facciamo magari, io, Pezzulli, che è venuto pure qui ogni tanto quando c'è il Titanic, stava al cinema e fa: ti fidi di me? Io dicevo a quella davanti, tanto per fargli capire che era lui, capito? Tanto io prendo sempre Gio Pezzulli, perché lui fa la stessa cosa ai radio DJ, capito? E allora c'è sto rimbalzo da lontano. E certo che va rispettato, assolutamente. Sì, sì, no, io qualsiasi cosa lo offendo, perché così mi porto avanti col lavoro. E certo. Insomma, tu sei flat. Da quant'è che tu doppi, Alessandro? Da quando ho 4 anni. Certo, pure te poi cominciate a 4 anni. Sì, ed ma sai che potete denunciarvi i genitori? Questo è il lavoro nero, cioè, nero proprio. T'ha infilato in sala a 4 anni. Perché tu sei bianco con gli occhi rossi? E non c'hai più. No, assolutamente. Non c'è il sole, non ha vissuto mai, in me. No, non esatto. Solo si è costruito una sala di doppiaggio anche a casa, perché non ne può fare a meno. Questa è una cosa no, grave. Anche a casa, peggio del metadone, così però. Cioè, non si può fare una storia del come Twilight, sai che fa questo. Esatto. Sta là dentro, è cresciuto così. No, una famiglia così, esatto, camminano solo quando piove, quando è brutto tempo, esatto, perché non possono vedere il sole. Quando è giorno trasuda gli Swarovski come nel film. Esatto. Ma tu e tuo fratello, chi è più bravo fra te e tuo fratello? Uguali. Dai, non c'è uno più bravo. Chi fa più bene a papà? No, quale zio preferisci? Uguale. Uguale. Uguale, dai. Dai. Quale madre preferisci? Una, questa. Per forza. E non può, sì, dire il contrario. Uno perde pure un po' di credibilità quando fa sto mestiere, perché dicevo, nel senso, noi un giorno io e Ciufoli eravamo vestiti da Batman e Robin durante degli, sì, sketch della prima ditta, eravamo Batman e Robin gay. In gay. Per cui bello, vestiti di rosa, con la calzamaglia, così. E ci avevamo portato Matteo e io, i primogeniti nostri, che avevano 10 anni, e stavano a far casino sul set, e noi vestiti da Batman Robin con i calzarieti, abbiamo detto: raga, allora no, a papà, per favore, bisogna essere seri, qui si sta lavorando. Ma come fai a dar credibilità a un padre vestito da Batman, no, rosa? Non ce la vuoi fare, no, no, così tu come, no. Mi mandi un attimo una delle voci di questa signorina, magari quella, dai. Lisa, hai rovinato il mio barbecue. Esigo subito le tue scuse. Non mi scuserò mai e poi mai, perché sto difendendo una giusta causa e tu hai torto. E adesso scusami, me ne vado in camera mia. Ora basta, vai in camera tua. Marge, siccome non rivolgo la parola a Lisa, ti dispiace chiederle di passarmi la salsa, per favore? Per favore, Lisa, passa la salsa a tuo padre. Bart, di a papà che gliela passerò solo se non verrà usata su un prodotto di carne. Inzupperai le tue salsicce in quella salsa, compà! Bart, va in camera tua! Perché non ti mangi anche lui, papà? Non mi servono suggerimenti da te sulle pietanze brutte a questa barbecue! Nulla sapiente, tutto, niente sapiente! Ora basta! Non posso vivere in una casa con questo carnivoro preistorico! Io me ne vado di qui! Beh, è inutile neanche presentarla, no, Lisa Simpson. No. E lì era il grande Tonino Accolla che ti accompagnava in, sì, questa avventura. Infatti, ecco, stavi dicendo appunto della credibilità che uno può avere, sì, con, capito, i figli. Sì, capito, cioè, ma ti viene sulla voce. Tutto il giorno parlo così. Infatti io, loro non proprio mi considerano pochi in questo senso. Mamma, senti, stai zitta. Perché, anche perché se ti viene la voce alta e fai, allora devi smettere. Adesso devi smetterle, capito? Non ti sopporto più, giustamente. A quest'età non è sopportabile. No, non è, no, appunto, 50 arrivano anni piena di rughe. Non è possibile. 50 anni. No, vergogna, guarda, sì, quanto stai bene, ma che scherzi. Ha furia di fare i cartoni tantissimi animati. Tantissimi complimenti, ovviamente, evito di dire quelli bravi, eccetera. Monica Ward, film e serie, grandissima professionista, grande curriculum, ma soprattutto Monica Ward, grandiosa doppiatrice di cartoni animati, Ranma indimenticabile. Ranma. Lo ascoltiamo, adesso andiamo in pubblicità fra due minuti e poi torniamo con te. E aspetta, complimenti, bravi tutta la famiglia, eccetera eccetera. Sei risultato di questo ipotetico familismo, che bello, un termine che non avevo mai. Sono doppiaggi stupendi ed avvolgenti, beh, viva il nepotismo. E poi se un doppiatore top, se sente, dice Carlo da Latina. Monica mi scuserà, ma me la immagino con la faccia di uno dei tre bimbi dispettosi di The Nightmare Before Christmas, che lei doppiò, l'hai fatto, esatto, tu. Che bello quel film, Nightmare Before Christmas, Tim Burton con grande Renato Zero protagonista, lì bisogna bello, dire veramente. Che è uno dei rari casi in cui il talent è veramente talentuoso, è vero, e è gli stato ha dato profondità, è stato straordinario. Ho partecipato anche a alcune canzoni corali, che bello veramente, un film bellissimo, sì quello ideato da Tim Burton, ma la regia non era la sua, le musiche di Danny Elfman che in originale non sono altrettanto belle. È vero, perché sono Danny d'accordo. Elfman ha voluto cantarla lui, che è un grande compositore di colonne sonore, ma non è un cantante, per cui sentire lui che fa lo scheletro, la morte in quel modo, what's this, e sentire invece il grande Renato Zero, l'ha veramente, gli ha dato un'anima che pazzesca. Non lo volevano all'inizio, perché era diverso dall'originale, diverso, ha dovuto poi convincere anche lui a suon di fatti e di esatto, di, poi di credibilità. Che bello, se trovi qualcosa di Nightmare Before Christmas, lo dico Alessandro e saluto anche Gaia dall'altra parte del vetro, magari una canzone cantata da Renato Zero o un ensemble, ecco, dove c'è anche la grande Monica Ward, ha detto avete tempo di questi minuti di pubblicità, va bene? Tu le sa, resti qui, però tuo fratello adesso si arrabbia. Speriamo di no. Voi scrivete testi comici? Sì. E volete farmi da autori? Sono carini? Sì, beh, sono abbastanza. Sono abbastanza limitati. Allora, venimi a trovare in settimana a teatro, faccio pubblicità perché sto nella mia radio. Sì, assolutamente, ho detto. Al Ghione con questo spettacolo, venite insieme e io vi gratificherò alla fine. Va bene. Però portami i testi, se non paghi il biglietto. Va bene. A tra pochissimo con i words, perché è plurale, e certo. Frank Merenda che mi accompagna, Voice Anatomy, a tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Voice Anatomy. 15 e 54 secondi, siamo in diretta. Io sono molto contento, non so neanche che sta succedendo allo Stadio Olimpico, ma credo che tutto tace dall'altra parte, non ci sono segnali di dita in alto o in basso, anche perché non c'è Valerio che quando gioca alla Roma in casa, il nostro tecnico del suono, o fuori casa, non si presenta. E no. Viene il grande Alessandro, che è un uomo che ha bisogno, insomma, anche di stare qui con me, insomma, per vivere bene, lontano da casa, un minimo anche lui. E allora sempre Monica Ward e accompagnata, che non è l'accompagno perché c'hai io 50 anni, ma tuo figlio, no, bravissimo doppiatore. Che soddisfazione ti stai togliendo? A parte Flash, che sta succedendo? Nel cinema qualcosa? Nel cinema ho dato la voce a Taron Egerton in Kingsman. E Kingsman, un film molto bello, molto divertente. Molto divertente, effettivamente. E ho fatto, insomma, alcuni film come War Horse, come Lorax, adesso Eddie the Eagle, sempre Taron Egerton, quindi comunque arrivano le prime soddisfazioni. Adesso le Tartarughe Ninja. Le Tartarughe Ninja. Sei un ninja? X-Men pure, fagli sì. Un po' un pezzetto. Di X-Men o delle tartarughe? Di X-Men chi sei? Di X-Men sono Quicksilver, quello super veloce. Ma tu sei sempre questi qua. Sono solo super veloce. Fai uno che cammina. No, pensa alla Nemesi. Tu fai questi due veloci e poi una tartaruga. Hai capito? Quella è la cosa strana. No? Il controsenso. È come io doppio dei bellissimi neri con fisico statuario. La mia Nemesi sono io. Cioè, mia moglie al buio dice, come diceva Pino Locchi, dice, al buio io sono James Bond, ma quando accenna la luce mi moglie se ne accorge che non è così, Sì. Tartaruga, chi sei invece? Sono Michelangelo. Quello più pazzarellone. Bello, perché poi questa nuova generazione di Tartaruga Ninja ha ripreso un successo, anche perché i film sono più belli di quelli che hanno fatto tantissimi anni fa. Sì. Com'è Michelangelo? Tu ti ricordi tutto a memoria? Sei peggio di tuo zio. Sì. È un macello, cioè, questi li puoi prendere, ma ti ricordi i pezzi a memoria di tutto il film. È per questo che mi ha accompagnato. Dice, mamma, se dovessi avere una mancanza cerebrale, ci penso io a trattenere miseria. Il pubblico. Fagli un po' il pezzo che l'ho cantato. MC Mickey, MC Wiki. Sono Michelangelo. Non sta bene. No, non state bene. E la cosa bella è che il fratello è peggio di lui. Attenzione, Monica, voce, ma 2000 messaggi, ma è molta gente. Ma devo dire che questa trasmissione sta avendo veramente un bellissimo successo, anche grazie veramente alle persone. Poi insomma serviva anche una trasmissione che raccontasse la voce in tutte le sue declinazioni, perché poi la bellezza non parlo fatto autocelebrazione, per carità, ma l'idea bellissima del capoprogetto di Alessia Navarro, accompagnata da Damiano e tutti gli altri, è trovare tutte le sfaccettature della voce, dai vocologi, dagli etnomusicologi, dagli studiosi della voce, dai cantanti ovviamente, dai filosofi della voce. Abbiamo scoperto delle cose pazzesche, gli ipnotisti. Cioè, pazzesco, per cui io sto allargando i miei confini di povero uomo diplomato all'ISEF. Ma allora, dov'è Manica? Bellissima voce, allegra e sorridente. Sei bravissima, immagino tu sia bellissima. Immagini bene, guarda, basta che cliccate, perché Monica Ward. Ward, WARD. Monica sembra tua figlia, Pino, io devo dire. Frank, io ti ricordo una cosa, che tu sei amico mio. È una cosa brutta questa. Dobbiamo continuare a frequentarci in qualche modo, Sabrina permettendo, ma... Ma sai quante volte mi hanno detto, dice, ah madonna che bello conoscere la figlia di Luca Ward. Dico sì, no, veramente non sono la figlia, sono la sorella. Abbiamo, mi dice Alessandro, un pezzo di Renato Zero sentiamo che pezzo avete trovato. Non ho più dentro me quella voglia di terrore, di guai. Sentite che facile, i dualismi. I passi miei fanno quel tic tac che ti angoscia finché griderai. Piccolissimi trucchetti per stupirti un po', fantasie arcane il venerdì. Che bello. Quando mormoro ciao, olorantolo, treman tutti e si disperano così. E tutto va via, è la mia routine, e mi sento stanco di quest'aria qui. E io, Jack! Fantasmale. Bello, bellissimo, grazie Alessandro. Che bellissimo. Bello, ma sentite che profondità, che bello. Che bello. No, lui è stato proprio straordinario. Sì, ho avuto la fortuna di sì. Sentirlo pochi giorni fa, sempre persona ironica, carina, veramente. Divertente. Merita, certe persone meritano veramente tutto il successo. Assolutamente, che hanno. Tutto. Poi capisci perché poi sì, alla sì. Fine. Che no? Bello parlare bene delle persone. Sì, è vero. Forse come è quando più sono bello venuta, che parlarne male. Non sono lo venuta so. A se le fa a vedere te e mi hai divertito da morire. Mi sono come una pazza, sono tornata a casa e dico no, veramente Pino sembra... Sai, i sogni dei bambini, no? Un bambino che viene trasportato in teatro e si diverte. Beh, l'ultimo che ho visto io era da paresi facciale. Sì, proprio perché, c'è l'aria condizionata accesa. Esatto. Era per quello. No, forse hai Starparioli dove c'era Costanza che teneva acceso tutto. Ti prego, fai fare a Monica Ward la risata di Lisa, così la registro come suoneria del cellulare. Grazie. Allora ti sto avvertendo, non mi hai segnato il tuo nome, però... stai sentendo la trasmissione, allora io conto fino a 5 e lei registrerà e così tu farai la suoneria proprio dedicata tutta a te. E allora 1, 2, 3, 4, 5. Oddio della serie, che cosa tocca fare per campare? E è gratis. No, questo è carino perché io... La gente proprio ama il mondo del doppiaggio, sì. A parte ogni tanto queste piccole diatribe interne, sì. Non nostre, ma di qualcuno che ogni tanto, vabbè. Come Vincent Cassel che si è svegliato una mattina, sì. E ha detto cose in libertà. E ha giudicato, senza sì, sapere senza poi. Sapere, senza sapere. Sapere, ovviamente. Ma lo diciamo da sempre, è come un buon libro, va tradotto. Se non sai certo. L'inglese, Shakespeare, tu devi leggere in italiano. Ovviamente se sai l'inglese, leggitelo in inglese, chi ti dice niente. Certo. Ma non è che chi traduce il libro non ti fa studiare l'inglese. Assolutamente. Anzi, può no. Veicolare meglio per tutti, visto che il cinema è qualcosa di popolare. Né vero, Merenda? No, ma anche perché la moglie, per esempio, del suscitato signore, quando non è doppiata... E questo mi fa denunciare. Ma come io sono stato una attento? Ma hanno telefonato i giornali. Era la prima cosa che ho pensato. La dico io, la dico io. Capito? Ma io mi dissocio completamente. Tu dissociati, ma io la dico però. Tu puoi dirlo, tu fai un altro mestiere, giusto? No? Scusa, Mi fa morire parlando giorni fa con Christian De Sica, che era andato altra a trovare, persona piacevole. Altra persona piacevole che mi diceva che a lui ha proprio a cuore il doppiaggio, i doppiatori italiani, e mi diceva, e me l'ha ripetuto più volte in varie occasioni, che il padre da piccolo, quando capì che lui voleva fare l'attore, gli disse: amore, se vuoi fare questo mestiere devi iniziare dal doppiaggio. Allora ti porto in sala di doppiaggio, vedi come funziona e poi potrai decidere di fare l'attore, perché lui era convinto di Sica che per iniziare bene a fare questo mestiere dovevi prima saper doppiare e poi fare l'attore. Sì, che poi saper doppiare è una tecnica già difficilissima, però ti permette con grande velocità di interpretare già qualcosa, di vedere un testo in due secondi, perché non è che lo vediamo prima il film. E anzi, è il testo, non è che ce lo mandano a casa, lo vedi lì e il direttore ti racconta e poi sta a te, insomma. Però in un secondo trovi la dizione perfetta, il modo perfetto, sì, di dirlo, fermo davanti a un microfono. È un lavoro veramente affascinante. Ma io urlo. Secondo me quello che la gente non capisce, che associa male tra l'altro al mondo del doppiaggio, è lo prende per esempio dalla politica o dal posto fisso, il posto statale, piuttosto che dall'imprenditoria dove il figlio non ha mai fatto niente, a 30 anni eredita l'azienda, vuole spiegare tutto a tutti. Ma in realtà se tu prendi lui per esempio doppia da 4 anni, poi lo senti quando lavora, cioè non è la stessa cosa. No. Questa è gente che sviluppa in una passione, una professionalità da quando è bambino, con una grande passione, perché nasce in quella famiglia dove quella passione, sì, è trasmessa. C'è quella tradizione, certo, come cioè, prima Maurizio Casagrande è nato un papà direttore d'orchestra, mamma eccetera, certo, cioè, normale. Respiri quell'aria. Non è che puoi prendere un incapace e lo metti, certo, adesso doppi perché sei mio figlio, non è così. No, assolutamente. Io ci ho provato con tutti e due i primi due figli, ma non è papà, uno sta a giocare a pallone a Teramo e l'altro fa cestista, per cui niente, non ho fatto un altro, ma di disperazione adesso c'ha cioè un anno e tre mesi con la speranza. Ma anche Alessia infatti mi ha detto, però portalo in sala a 4 anni. No, ha ragione. 4 anni, quella è l'età. Sì, esatto. Sono incoscienti. Sì, esatto. Che poi perché non sbagliano mai. Si innamorano. Ma non sbagliano mai. Non sbagliano mai. Ti capita di doppiare con dei bambini e sono terrificanti. Dei geni. Sì. Dei geni puri. Io stavo ammazzando de botte uno, il figlio di Carlo Valli durante The Road. Non sbagliava mai. E tu sembri un cretino. Rifacciamola. E una volta ho fatto cascare il panchetto. Io almeno so. Sbaglio. Cioè, ha fatto rumore lui. E certo. È santa miseria. Come è stato lavorare con Tonino Accolla? Monica, così lo ricordiamo anche. Tonino Accolla, un grande attore, un grande artista, ma anche un gran pazzarellone, sì, diciamo non così. Tutto, per insomma, cui, non è, Sì, sì. Era un grande creativo, sicuramente quando c'era lui in sala si riusciva a creare delle situazioni lavorative molto più fantasiose, e questo glielo dobbiamo. Purtroppo se n'è andato un po' troppo presto. Sì. Questo è un dispiacere un po' per tutti. E non lo salutiamo, lo ricorderemo sicuramente in, esatto, qualche trasmissione con altri amici. Ma è difficile, quanti messaggi oggi, vi siete sbizzarriti. Sì. Caro Pino, ma come fate tu, Monica e gli altri ad entrare ed uscire in espressioni così diverse? Artisti, sì, ma come fate? Luca da Bergamo. Come fai? Come facciamo? Come lì fai, anche il grande amore, la grande passione di... È proprio il questo il difficile, il grande studio, perché poi la passione, per carità, però essere così poliedrici, per cui trovarsi a fare varie situazioni. Usare diverse, la voce perché usare, è uno strumento. Esatto. È uno strumento. E tempo fa io feci una serie che era Fargo, che sicuramente molti bellissima, di voi hanno visto. Tratta dal film dei fratelli Coen, una serie meravigliosa. Dove io facevo la protagonista Molly, e mi arrivò alla fine della serie un messaggio di Giancarlo Magalli, proprio alla fine della serie, dice: Monica, ci conosciamo da anni, conosco perfettamente la tua vocalità, ma non ti avevo riconosciuta. Questo è il complimento più grande che possono fare un doppiatore. Complimento più grande, e quindi vuol dire che poi siamo bravissimi, come anche te sai perfettamente, che riusciamo tranquillamente a cambiare vocalità a seconda dell'attore che ci capita. Ma io sono solo un presentatore. Il mondo del doppiaggio è magico, grazie per averlo fatto conoscere a tutti in modo simpatico e profondo. Grazie Francesca, vi adoro, trasmissione ok, grazie veramente dei complimenti, ma è difficile doppiare, come mai non vi mandano il test a casa così potete studiare? Magari il testo, certe volte non c'è avuto manco tempo di entrare in sala, no, infatti, già dovevi finire il film. Sì, sì. No, non si può. E lì anche, è una questione proprio di veramente di grande prontezza e di anni e anni, insomma, voglio dire, ho 50 anni, sono più di 40 anni che faccio questo mestiere, per cui... chiaramente assumi una velocità talmente rapida nell'emissione delle cose. Io a volte vado in sala e incido gli anelli, le scene, senza neanche vederle. Sì, ti capita assolutamente, perché sai, respiri ormai. A me capita anche di doppiare le persone, se uno parla ormai non gli ha ritardo, sì, di 3-4 fotogrammi. Esatto, se quindi, uno parla tu gli parli sopra e gli dici le stesse cose che sta dicendo. Ma come le sta dicendo poi? Ed è brutto, perché sappiamo leggere le labiali anche da lontano, per cui io sono riuscito a litigare con una persona perché a 100 metri ho capito che mi aveva detto. Cioè, e non era un baffa, che è facile leggerlo, certo, era qualcosa di diverso, e comunque dobbiamo andare in pubblicità, vero? Va bene, allora torniamo con un'altra bellissima voce, Ranma, ce l'abbiamo, no? Ranma, ce l'ascoltiamo dopo, a tra pochissimo, Voice Anatomy. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Eccoci, 15, 32 minuti e 23 secondi, sempre Monica Ward al mio fianco con l'accompagno, ma non è stato dato dalla, per la legge 180, ma il figlio straordinario doppiatore Alessandro e Frank Merenda che mi accompagna trattandomi anche molto male. Allora, ce lo sentiamo un pezzo di questa Ranma, che poi questi, che queste anime, se sono sì, anime, queste sì, sono anime. Anime. Che poi mi hanno spiegato che è una contrazione semplicissima di animation. Esatto. Io invece pensavo una cosa più chissà, filosofica. Sì, invece no. Ranman. Aspetta qui, vado a prendere dell'acqua calda. Ah, non preoccuparti per me. Non puoi presentarti a scuola come una ragazza. Ma in che strano posto mi hai portato? Così arriveremo tardi a scuola. Accidenti a questa scuola. Dannazione. Se non avesse cominciato a piovere lo avrei battuto con un colpo solo, quelle... Questo è poco probabile. Che cosa vorresti dire, Akane? Guardati il collo. Un livido. Ma quando... Ehi, non se la cava poi tanto male. Non mi aveva neanche sfiorato. Avresti potuto avere una voragine sul collo. Vi siete colpiti entrambi nello stesso momento. Ma quanti anni aveva? A parte era che, una bambina, si sente da anche voce. Qui si sente che eri bambina. Ma anche Lisa Simpson invece no, si sente che è caratterizzata, ma sembra una bambina sì, anche lì. Ma anche vero. Le super chicche. Le super chicche. Ma dai. Ma i baby Looney Tunes. Le super chicche. Meraviglioso. I baby Looney Tunes. Ma tu vedevi anche le super chicche. Tutto, ma sei fuori. Tu non hai figli. Ma come sono fuori? Io avevo i figli piccoli, le super chicche che vedevo, ma tu. Adesso. I fan dell'animazione rimangono fan dell'animazione per sempre. Senti, per sempre. L'animazione, si sente che dell'Emilia. Esatto. I sassolesi sono rovinati perché gli rimane sta S per tutta la vita, non la togli i corsi di edizione. No, si può togliere, si può togliere. Già il sardo è un po' più difficile. Qui arrivano veramente. No, il sardo è veramente difficile come inflessione proprio toglierla. Ma com'è possibile mantenere sempre la stessa voce per un film e poi cambiare completamente il tono per un altro film? Non si rovinano le corde vocali? Ma stiamo facendo anche una specie di tutorial in questa trasmissione, esatto. Anche l'altra volta con la voce estrema. Perché va studiata, la voce va è studiata uno strumento a fiato che va studiato come un sassofono, come qualsiasi strumento. Assolutamente sì, io infatti anni fa proprio per questo motivo, perché la usavo in maniera un po' esagerata, ho fatto anche per quasi 20 anni 8 sotto un tetto che molti di voi si ricorderanno, dove doppiavo appunto Steve Urkel, e per quella serie io sono stata operata alle corde vocali proprio per un uso sbagliato delle corde vocali. Nodulo sulle corde vocali o polipi? Più polipi che non sono esatto. Proprio poi però me l'hanno tolti e la voce è tornata, ecco, non è facile neanche per noi che siamo certo, no, perché poi l'usura si va incontro anche a un'usura, esatto. Se basta uno strappo fatto male, caro Alessandro, tu che sei giovane non fate come tutti i giovani, esatto. Piove, chi se ne frega, tanto non sento niente, poi a 50 anni senti i dolori. Mi fa sentire un pezzo delle super chicche per far contento Frank. Sono in salvo, si sente bene, sindaco? È una storia talmente lunga. Io ero a scuola e stavo dando una rinfrescata al mio cinese quando all'improvviso la mia linea verde ha squillato. Ho capito che c'erano dei problemi e che dovevo agire in fretta. E come le stavo dicendo, ho risposto al telefono e c'erano anche Molly e Dolly, credo. Al telefono era la signorina Bellum e mi ha informato che lei era stato rapito. Lei aveva scritto un biglietto alla signorina Bellum. È abbastanza, super chic. Tra l'altro le stiamo rifacendo adesso, ecco. Anche quelle dopo 20 anni. No, vabbè, il remake delle super chic. Tu sei pazzo, Merenda, non avrei più nessun cliente nei tuoi venditori vincenti in Cina. Per il mondo, che lui come apre bocca c'ha 1000-2000 persone che lo amano, lo seguono, e non solo le stesse, poi cambiano, si alternano. Sì, mi tirano i sassi, tutto. No. Senti, a proposito di queste voci particolari, io mi ero preparato, ogni volta che viene un doppiatore sì. Fa qualcosa di strano. Che ne so, Rodolfo Bianchi, le istruzioni della lavatrice, ecco. Eccetera. Mi leggi come, non tutto ovviamente, solamente 3-4 righe, insomma, con la voce di Lisa Simpson, questo? Mi mettiamo una musica sotto. Sì, vedi, gli ho dato adesso, mica gliel'ho data a casa. Poi lo riconoscerete qual è il testo scritto da me. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. È bella pure così sta cosa. Esatto. Non puoi rispondere, tu stai leggendo. Ai, quanto a dir quell'era è cosa dura. Esta selva selvaggia è aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Bello! La Divina Commedia con una musica esatto. Ad hoc. Alessandra ha scelto una cosa cacofonica, bellissima. Poi in realtà, caro Pino, devo dirti che io ho questa voce. Per tu, questo realmente? Che faccio da 30 anni Simpson, tu che adesso è tornata così. Esatto, poi ogni tanto mi chiamano a fare altre attrici come Gwyneth Paltrow, Brooke Shields, Natasha Kinski, Mira Sorvino. E ce l'abbiamo. Un Gwyneth Paltrow ce l'abbiamo di Paradiso Perduto? Sei tu, no? Sì. Abbiamo tutto qui, tesoro. Vai, Madonna. Mandami una voce da donna, dai. Allora, Finn Bell a New York. Eh già. Mi era parso di averti visto quest'inverno sotto Natale. Passavo sulla Quinta, era pieno di gente. No, non ero io, sono appena arrivato. Sì, in effetti adesso che ti guardo quel tipo era più grosso. Era più grosso? Più grasso. Ah. E poi aveva i capelli lunghi. Già, e l'hai preso per me? Beh, cosa vuoi? Sono anni che non ti vedo. Un bel po' di tempo. E ora eccoci qua. Bene. Abbiamo sentito la voce da donna, non è solo questa. Insomma, esatto. Poi basta che cliccate Monica Ward o su Antonio Genna, sull'enciclopedia sì. del doppiaggio, eccetera. Sapete, vedete perfettamente quanti centinaia esatto. di protagonisti ha portato a casa. Oia, pedala Alessandro mio. Oia. Quindi dico, faccio le domande anche che non prepariamo noi, ovviamente. I nostri ascoltatori sono veramente attenti. Cosa ti piace più del tuo lavoro, Monica? Il fatto che non è assolutamente un lavoro monotono, quindi ogni giorno, anche tu sai meglio di me, che è un lavoro innovativo, per cui serie, ad esempio in questi giorni ho iniziato una serie che ho vinto il provino per la protagonista, che è Lady Dynamite, e Maria Bamford mm-hmm. è l'attrice. Ed è una serie esilarante dove lei è una pazza, insomma un'attrice un po' sfortunata che insomma combina un sacco di cose, poi alla fine si risolve tutto. Però ecco, voglio dire, ti capita di doppiare appunto come questa cosa, oppure un film che ho fatto di direzione dove boss, io non c'ero. Dove tu non c'ero, capito? Mamma non m'ha chiamato. Lo sai che cos'è? Io devo chiamare. Ma se io ti chiamo, tu ci vieni da me? Perché una volta ti ho chiamato non sei venuto perché eri molto preso. Ho detto, dico, forse, non lo so. Ero molto preso da te. Allora non volevo, cioè, allora mi dispiaceva questa, perché sapevo che eri impegnata e non c'era questa più. Da parte mia è una grande proposta. Ma io prossima vengo, sì. volta ti metto certo. in mezzo, perché figurati. Ma vengo, se te faccio deve essere sempre un valore aggiunto, nel senso, devi fare bella figura tu e devi far bella figura tu. Non è perché un amico lo chiama a parità no, di merito, no, chiami no. un amico. Vabbè, sei un bravissimo attore, per cui figura. Soprattutto bello, io devo il mio successo alla bellezza, bello, Monica. Bello, diciamocelo, bello. Non ridere, state una capocciata in faccia. Allora, guarda, tu neanche te lo ricorderai, però lo voglio ricordare agli spettatori. Quando io ero ragazza, che ho 19-20 anni, venivo tutte le sere a vedere i vostri spettacoli. È vero, della premiata ditta. Sì, tutte le sere, cioè tu dici, questa è una pazza. Non stavi bene neanche. Non stavo bene, ma mi divertivo da morire perché eravate veramente esilaranti. Sì, guarda, non abbiamo mai smesso di divertirci, no, mai. Ma divertirsi, ripeto, non è ridere, è proprio amare. Amare profondamente. È vero. Ma gli attori o attrici che doppiate, li avete mai conosciuti? Beh, io sì, qualcuno sì, ma non sono io, sono il conduttore. Tu hai conosciuto qualcuna delle attrici che hai doppiato? Non dei pupazzi no. animati, perché quelli non ci sono. No, non ho mai avuto la fortuna. E tu, Alessandro? Sì, io sì. Ma io come conosciuto... tu, questa non l'ha mai conosciuta in 50 anni? Tu sto 20... sono già 20 anni che doppi, ma chi hai conosciuto? Qui Douglas Casibbe. Booth, che è l'attore che ho doppiato in Noah, in Posh, e adesso l'ho doppiato in PPZ, che è Pride, Orgoglio, Pregiudizio e Zombie. Sì, sì, non da per scontato che sono cose dove hai detto tre cose. È un ragazzo, come... l'ho conosciuto una prima, poi casualmente ci hanno fatto conoscere, siamo detti due cose, poi in quel secondo ho dimenticato tutto quello che sapevo dell'inglese, mi guardava come se fossi un... Ma questo che sta a dire? Mi guardava proprio, faceva... mi guardava. Una volta ho conosciuto, a parte Viggo Mortensen, poi lo racconterò, eccetera, ma Brad Pitt sono riuscito a conoscerlo, l'ho toccato solo una volta, perché è Sandro Acerbo, ovviamente, ma nell'esercito delle 12 scimmie. Mi sono avvicinato, c'era una guardia del corpo 4 metri per 6, nera, c'è una cosa brutta, mi scansai, faccio no, io voglio solo un autografo sul film che avevamo doppiato, un cartone animato che era Sinbad, io facevo sì, come no. lui eccetera, e lui mi ha scritto grazie per la traduzione. Brad, ma come grazie per la traduzione? thank you for translation. Ho detto, ho doppiato, c'è la voce mia, non ho tradotto. Vabbè. Pazzesco, vabbè. E se n'è andato. Era pure brutto, chi pedicelli, ho visto. Sì, vero. Anche una forte alitosi, cerchiamo di, almeno non ci sento. Certo, beh, dai, forza. Non solo Pezzulli devo distruggere da sti microfoni, anche quelli sex symbol. Assolutamente. Noi siamo fatti così, noi uomini. Dobbiamo distruggerli sessualmente in qualche modo. Che vuol dire poliedrici? Beh, poliedrico vuol dire una persona sfaccettata, con varie sfaccettature, che riesce magari a essere diverso ogni volta. Qui parliamo di vocalità, ma uno può essere poliedrico anche come musicista, come uomo, come donna. Come donna, come attrice, appunto, facendo la voce gas gas. Organizzo io il banchetto reale, cioè, la voce di Cenerentola, come appunto Lisa Simpson, oppure una serie che adesso sta facendo che si chiama Paw Patrol, che è una serie che sta andando tantissimo. E probabilmente tuo figlio, quanti anni c'ha adesso il piccolo? La vede la figlia di Alessandro, guarda, ecco, di là il Paw nostro Patrol. E io faccio Marshall e faccio un cane un po' così che rincoglionisce gli altri, che noi prende sempre le trambate. Io credo che così noi possiamo, normalmente una persona così è bipolare, tripolare. Esatto. Sì, invece sì, questo lo usiamo come sedute psicanalitiche, risparmiamo sul psicologo, perché riesce a essere cattivo, abbiamo... buono, qualsiasi cosa, almeno lo dici, lo fai per 9 ore, torni a casa e rischi di essere te stessa. Te stessa, e quindi sei più rilassata con il mondo, con i figli, con la famiglia. Sì, e questo è un altro bel messaggio, dice... aspetta, questo l'avevo visto. Ah, ma voi grazie al doppiaggio rimorchiate? Oddio. Sì. Che domande leggi? No, ma è vero, cioè, a me mi è capitato, insomma, fa... ma il doppiatore rimorchia facile, sì, bellissima trasmissione. Bellissima, sì. Sì, no, ti ho detto al buio uno... Sì, certo, no. Uno che utilizza la voce, tu non l'hai mai utilizzata per essere no, un po' più... No, perché mi accomunano, sempre avendo fatto il mondo, mi accomunano praticamente solo a Lisa Simpson, per cui tu capisci che un uomo non lo posso intortare, non lo posso... Vieni a dormire da me. Vieni a dormire da me, che poi te lo tocco. Ma così! No! È proprio un feticismo... Totale, sì, in effetti no. Quindi gli uomini scappano da me, non c'è niente da fare. Ma no, è vero che poi accorgono quanto sei bella. Ma tu pensa, perché... lei che fa Gwyneth Paltrow, c'è Angelo Maggi dall'altra parte che fa Robert Downey Jr. in Iron Man, no? E quindi Angelo non è che sia proprio uguale a Robert Downey Jr. No, esatto. Io sono l'unico che assomiglia agli attori, assomiglia io sono bello. No, ho detto, io sono bello. No, lasciamo. Basta, non c'è, non altro c'è da bravura. Dire. Ma sono tante le domande, veramente state, che belle, eccetera, eccetera. Vabbè, complimenti, eccetera, eccetera. Siamo arrivati alla fine anche dell'appuntamento con Monica. Adesso abbiamo Donatella Pandimiglio, una grandissima interprete musicale, una cantante straordinaria, di grande esperienza. E con lei faremo un altro percorso nella vocalità. Monica, grazie. Grazie aspetto a te. Aspetto il resto degli award, perché ho 12 trasmissioni coperte dai award. Certo. Perché se scende per uno 14 fi, intanto mi tocca a legge equipararlo all'altro. Deve no, venire. L'altro lo devi, per forza li devi invitare, perché l'altro sennò poi ci rimane sì, malissimo. Sì, comunque vi aspetto. Qui mi stanno dicendo dove stai. Sto al Teatro Ghione di Roma fino al 17 aprile con C'era una volta. Signori e signori, buonasera. Un bel viaggio attraverso il mondo televisivo e cinematografico che non c'è più. Va bene, però questa trasmissione continua. Monica, grazie di gran cuore, davvero. A te, Alessandro. Tu, merenda, te ringrazio, perché devi rimanere. Va bene, ci sentiamo tra poco. Voice Anatomy. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, 15:46 minuti e 15 secondi. La bellissima, la stupenda Donatella Pandimiglio ci ha raggiunto qui in studio. Io la ringrazio. Lei è una grandissima cantante, una vocalist, ma anche una grande attrice. Grazie, una grande, buongiorno. Una grande vocal coach, poi straordinaria. Ho avuto il piacere di conoscerla in tutte le sue sfaccettature, a proposito di grande poliedricità, come amica soprattutto, come insegnante e anche come collega in scena. Vabbè, ma questo ne parleremo. Però la cosa più importante e più bella non è tanto essere stata in scena con me, quanto aver condiviso la scena con dei grandissimi professionisti, da Gigi Proietti e soprattutto l'indimenticato Vincenzo Cerami e le musiche di Nicola Piovani. Ci ascoltiamo subito una cosa, Donatella. Che cosa ascoltiamo? Magari di Cerami, quella canzone proprio... che poi è stata da te lanciata e poi fatta Sì, poi l'hanno cantata tutti ormai. Tutti, sì. E Grande Benigni anche, se non sbaglio. Sì. Aveva iniziato lui, era passata un po' così inosservata, era la fine del suo show Tutto Benigni nel 95, poi Piovani in una edizione di Canti di Scena mi propose di farlo e io cercai di capire come era questo brano fatto così come bis da Roberto nel suo spettacolo, lo provammo e da quel momento è diventato, si è integrato in Canti di Scena e è uscito talmente in maniera prepotente che insomma poi alla fine l'hanno cantato tutti e Roberto venne in camerino e mi disse: adesso ho capito come si canta sta canzone. Beh certo, allora lui è un grande interprete davvero e si intitola Quanto t'ho amato. Quanto t'ho amato. Se tu m'avessi chiesto come stai, se tu m'avessi chiesto mai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai. Ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale. La stella polare sei tu, mi sfiori e ridi no, così non vale. Non parlo e se non parlo poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai. Anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Lasciala in sottofondo questa bellissima canzone. Questo è stato un grande successo, poi sì, la canzone, ma anche i Canti di Scena. Sì. Sì, è andato in onda a febbraio in una rassegna che ha fatto Rai 5 dedicata a Nicola Piovani con 6 spettacoli di Nicola, in 2 dei quali ero presente e uno è stato proprio Canti di Scena, ripreso nel 1999 dalla Rai per Palcoscenico a Milano. Sentite che bella voce, lei la doppiatrice non l'ha mai fatta. Ma io lo sto chiedendo dai miei amici doppiatori da molti anni, perché io... non mi fate fare un po' di doppiaggio? Mi piacerebbe molto. Hai capito? E come fai a dirgli di no? Anche se non esiste qui nelle raccomandazioni, ma tu sei brava. No, qui però... oggi poi parliamo, stranamente c'è questo Massimo come un divisore, cioè prima Maurizio Casagrande, papà musicista, lui poi musicista, attore, eccetera, Monica Ward, papà Leardo, eccetera. E te, vedo la tua biografia, racconta che sei nata e cresciuta immersa nell'arte, papà musicista. No, no, non mio era, padre no, non era musicista. No, ah, no, no, eccolo, no, no. Però mamma era cantante, qualcuno in famiglia c'era. I miei genitori amavano cantavano la musica. No, mio padre suonava il pianoforte per piacere di farlo, ma faceva tutt'altro lavoro nella vita. Sì, comunque amava la musica in qualche, qualche modo. Io sono la cresciuta andando a vedere le opere. A 4 anni mio padre mi portava tutto a teatro a vedere le opere. 4 anni oggi si comincia, il doppiaggio a 4 anni. 5 anni, sì sì. Ti portava a vedere l'opera. Io cantavo Bohème sdraiata sul divano a 5 anni. Com'è la Bohème? Che cosa cantavi? Mi ricordo che ho l'aria più famosa. Mi chiamano a me, me e perché non so. Voi capite che a 4 anni hanno chiamato l'esorcista a casa, perché una bambina che così si stende freddo sul divano, tu la porti e cominci a fare mi chiama, no lo so che è freddo questo, sì, non ti ho fatto neanche riscaldare la voce, ma vabbè, no, no, vabbè era tesoro mio. Un gioco questo. Sì, ma guarda che non se ne è accorto nessuno di niente, mi devi credere, anch'io che qualcosa conosco della musica, per cui a 5 anni tu ma già... Ma io mi sdraiavo e mi era rimasta impressa questa cosa del finale, che lei starà sdraiata nel letto, che cantava con questo fil di voce, quindi io mi sdraiavo sul divano e volevo rifare questa cosa. Vedi, ma ero piccola, sì, veramente ma la cosa piccola. Bella è che bisogna far amare le persone dall'inizio le cose, che sennò arrivi quando sei grande andiamo a vedere l'opera, no io non capisco, non la capisco, non la sento, non la vivo. Io dico sempre ai ragazzi, agli allievi delle scuole, dico sempre che cantanti anche insomma con la predisposizione ad una disciplina artistica si nasce in qualche modo, no? Con la poi con la tecnica ci si educa e si diventa professionisti. Ma quindi la propensione a certe cose ce le hai in natura, ma se hai la fortuna di nascere in una famiglia appunto che ti educa a questo fin da quando sei piccolo, fa parte della tua vita. Percorso, certo. Fa parte della vita. No, ma è bello. Quindi è l'arte quello, fa fare, parte della vita. Quello insomma. Dice non amo il mare, significa non te l'hanno fatto amare in qualche modo. Certo. Non amo la lì, non amo il cinema, non amo... è perché nessuno ti ha accompagnato e ti ha fatto capire quanto era bello, insomma. Sì, poi quando cresci scegli, ovviamente. Sì, certo, questo è normale. Scegli di non andare a vedere più la lirica, per carità, sì. Non è che perché l'hai vista a 5 anni. Però le cose belle, secondo me, restano. Sono belle comunque, indipendentemente. Sì, quella è l'età giusta, cioè nel senso, quando sei piccolo sei una spugna davvero. Sì. E prendi tutto e ti resta. Assolutamente. In qualche modo quei colori, quei sapori. Ma sai che io mi ricordo di questa cosa, che mi sdraiavo sul divano, me lo ricordo benissimo. Io mi ricordo che mi sdraiavo sul divano e mi vedo una partita. Cioè questo cambia, capito? Cosa che invece non faccio più la domenica, visto che sono qui. No, cambia. Io ho avuto questa svolta invece il teatro a 14 anni, invece andare a scuola ci portano a vedere Romolo Valli all'Eliseo, era una scusa per fare il compito in classe, invece lì c'è stato anche veramente il colpo di fulmine degli attori, dell'applauso, del mondo del teatro. Sì, sì, sì, ma questo succede così. Infatti succede è così. Questo, insomma, scoprire non solo ecco quello che accade, quindi attraverso l'opera, se l'opera, attraverso il teatro. E io nello stesso modo ho iniziato ad amare e volevo fare quello che facevano loro là. Ti ricordi la prima volta che hai cantato in pubblico? Sì. Quando è stato? La prima volta che ho cantato in pubblico in una recita scolastica avevo 6 anni e mezzo. Tutto lì hai fatto e subito. Mi ricordo che hai cantato e lì? Non ricordo più, no, ma no, ricordo no. Soltanto una cosa, che c'era una bambina di 8 anni che faceva la terza elementare che mi aveva scippato il pezzo più bello e che io avrei tanto voluto cantare ed ero convinta che l'avrei cantata meglio di lei. Ah, già eri così? Sì, però dentro di me e ci sono rimasta, non sono una che sgomita, non ho sgomitato allora, non lo faccio neanche poi da signore in tutto. Non sono capace. Non ce n'è bisogno, la qualità questo. Esce fuori senza sgomitare. Non sono capace, però poi ricordo invece la prima volta dove mi hanno pagata, quindi proprio professionalmente, e avevo 13 anni. E feci lì è stata la prima paga. Sì, sì, la prima volta pagata. Primo contributo d'Empals anche. C'è stato il contributo pagata per fare uno spettacolo. E mi ricordo 13 anni e mezzo. Sì, sì, ma cosa hai cantato quando avevi 6 anni? In quel caso, che cosa hai cantato? Era una recita proprio scolastica. Ah, una recita? No, non ricordo non più cantavi. Cosa fu. Sì, sì, era, si recitava, si cantava e si ballava anche, pensa. Quindi era proprio. Era un'antesignana del musical in Italia. Non senti, lo sapevo. Ti senti più cantante, più attrice o più professoressa o coach? Perché tu sei una splendida coach. Grazie, grazie tesoro. Ma allora io ritengo di essere un interprete e mi piace lavorare a 360 gradi. Per me il palcoscenico è uno, i linguaggi, i modi per attraversare l'arte nel palcoscenico sono diversi, ma quello che cerco anche di trasmettere ai ragazzi che insomma mi trovo spesso davanti, sì, tu fa parte anche di accademie importanti, esatto, sì. Anche insieme, sì. È questo, cioè che l'idea di scindere le discipline è una cosa che mi piace poco. Certo, poi c'è chi fa un percorso decisamente, sì, solo musicale, una strada, però ecco, io sento proprio una cosa più a 360 gradi. Ovviamente la natura mi ha dato un talento speciale, una sensibilità speciale nella voce e nella musica, quindi questo è quello che è uscito di più. Bene, qui mi arrivano dei messaggi, la Roma vince 1-0. Sì, l'ho saputo quando stavo entrando, è anche rimasta così. Non è vero? È vero, cioè, non me lo dite per non spegnere il mio entusiasmo. Ma dai, tranquilli, ragazzi. Va bene, tra pochissimo, voi sanato. Cos'è l'Europa per te quando pensi a lavoro, studio e mobilità? Oggi le nuove generazioni vivono in una dimensione europea. Tuttavia non basta, c'è tanto da migliorare e qui chiediamo la tua opinione. A te che vedi l'Europa come un'uscita di emergenza dall'Italia. Hai meno di 35 anni? Grazie a Radio 24 e all'Ufficio Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento di Strasburgo. Fino al 14 maggio ascolta Radio 24, scopri il tema della puntata e inviaci la tua proposta su come rendere a misura di giovani questa Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Info su radio24.it. Dove siete quando mi ascoltate per radio? In che modo mi sentite? Mandate una foto che racconti come ascoltate la radio, in che maniera ascoltate la radio, mandatela a melog@radio24.it e noi la proietteremo in una notte favolosa in cui io deciderò che la radio è morta. Sabato 9 aprile a Milano, all'Unicredit Pavilion, dove parlerò dei miei 33 anni di radio, dalle 19.30 alle 20.30. Siete tutti invitati. Voice Anatomy. Bentornati signore e signori, Voice Anatomy, sono le 16.07 e 12 secondi, questa era la pausa più lunga, quella con il TG, ma vicino a me c'è sempre Donatella Pandimiglio, grandissima interprete, grande eleganza, non solo vocale ma anche proprio come donna, esattamente rispetta e rispecchia la sua voce. E senti, parlavamo prima durante la pubblicità di questo Sunset Boulevard, Viale del Tramonto, questo film straordinario, Gloria Swanson eccetera eccetera, ma poi grande musical interpretato da Glenn Close, che mi stavi dicendo lo riprende di Weber e Rice, mi pare. Sì, è Weber. Lo stesso del fantasma di Jesus Christ, sì, eccetera. Vita, Cats, sì, e tanto. Sì, esattamente. E dopo tanti anni che è stato fermo dalla produzione di Weber, e l'hanno riaperto l'altro ieri sera a Londra al Colosseum. Io vado il 7 sera, sono lì a vedere Glenn Ma Close. Ma tu l'hai fatto in Italia, però. Io sono stata l'unica a farlo in Italia. Dopo di me, che io ho tentato di farlo, tu poi mi hai rubato la palla. Vabbè, ma questa è una cosa nostra che chiariremo più avanti. Vabbè. Però abbiamo la possibilità di ascoltarci un momento di Sunset Boulevard. Il tema principale, che pezzo è questo? E questo è il tema del secondo atto, quando lei va alla Paramount. E c'è un attimo dove tutto si sospende, perché lei si ritrova in questi studios che sono stati la sua vita. Com'è il titolo per permettere Alessandro? As if we never say goodbye. Io dico in italiano, perché no? Eccola, bravo Alessandro. All in debt past. These wars wait a long enough. I come home at last, and this time will be bigger and brighter than we knew it. So watch me fly, we all know I can go it. Could I stop my hand from shaking? Has there ever been a moment with so much to live for? Brividi. Brividi. Grandi brividi anche che bello, per me. Che bello. Ed era Donatella Pandimiglio, abbiamo ascoltato, e non la versione americana di Glenn no. Close, che io l'ho sentita e devo dire che insomma... Grazie, per me è la se cosa... Se dovesse sentire male Glenn Close qua a sera, io te lo auguro, e qualcuno dice dobbiamo fare lo spettacolo, chi può sostituire? C'hanno il body double? Sì, certo che ce l'hanno. Sì, ho capito, ma se sente male pure quella non possono più dare replica, a quel punto te alzi. Io comincerei a mettere un po' di gocce dentro l'acqua dietro le quinte, perché... No, io spero di rifarlo in Italia, sì, no, in italiano, che è meraviglioso, è la più grande occasione di lavoro che mi sia mai capitata. Ma questo anche al Teatro dell'Opera può essere, sì, fatto. Sì, ma infatti, cioè, stiamo più che il teatro questo di giro, da, esatto, musical, eccetera, questo è proprio il Teatro dell'Opera, dove offri questa possibilità ai veri... A parte che è una musica, già l'ho lasciata tutta perché... Non puoi interrompere un capolavoro, un godimento del genere. E come capolavoro era il film di Billy Wilder, questo è assolutamente il dodicesimo film tra i primi 100 film di Hollywood. Eh sì, Via del Tramonto, bellissimo. C'era anche William Holden, era il protagonista, sì, maschile, sì. Con la piscina, vabbè, vedetelo. Joe Gillis. Sì, mm-hmm. Bellissimo davvero. E per me è stata e la qui cosa è anche, più grande. Ne parlavamo durante la canzone, grande capacità non solo vocale ma anche come attrice, perché insomma non è tutto cantato. No, una grande prova, veramente una grande prova di attrice, perché ha tante sfaccettature questa grande diva al tramonto che incontra questo giovane scrittore, quindi lei è fuori dalle righe perché ovviamente vive in questa villa ormai che cade a pezzi, con questo maggiordomo insomma che è stato il suo primo marito, che fa di tutto per accontentarla, per assecondare la sua idea di grandezza, quindi vive in un mondo tutto suo, e quindi già entrare in questo mood non è facile. Il viale del tramonto di questa attrice, la fine della sua vita. Esattamente, quindi c'è questo passaggio, poi questo innamoramento, quindi lei in qualche modo cerca di comprare la compagnia e l'amore di questo giovane, che in realtà però vive l'amore vero con una giovane, no? Che poi è quella che fa il ruolo giovane. Quanto soffrirai a Londra? Molto. È vero. Sarò felice, piangerò, sì, però soffrirò perché in questo paese si fa fatica a replicare un'opera così straordinaria che ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Mi auguro che questa avventura invece continui, soprattutto Speriamo. Lì al Teatro dell'Opera, non è una brutta idea. Noi anche ci fermiamo un attimo e continuiamo tra pochissimo Voice Anatomy insieme a Donatella Pandimiglio, tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta... Voice Anatomy. Come promesso, subito tornati qui in studio con Donatella. Stavamo ancora accarezzandoci la pelle e i brividi di questo bellissimo Sunset Boulevard. Ma anche tu poi hai eseguito anche una Barbara Streisand, hai fatto anche un album aspettando Barbara. Uno spettacolo proprio dedicato a lei. Beh, ma tu con la tua voce non c'è tanta gente che può raccontare Barbara Streisand. È accaduto, sai perché? Perché quando lei doveva venire in Italia nel 2007 e poi cancellò le date, Pino Quartullo mi disse: perché non fai tu lo spettacolo su di lei? Te lo compro al festival. Ho detto: ma adesso che lei viene in Europa non mi sembra giusto. No, proprio adesso lo devi fare. E così feci. Sì. E così lui provocò questa cosa. E mi diede il titolo lui, Aspettando Barbara. Ah, che bello. Sì, e divenne uno spettacolo che poi si è replicato anche in teatro, è diventato anche era un album. Era anche parlato o raccontato? Sì. A raccontare Barbara, raccontando lei, raccontavo in qualche modo anche me, perché faceva parte anche un po' della mia vita, tutto questo repertorio. Qual è la canzone cose più bella che ti è rimasta nel cuore di Streisand? Allora, quella che mi ha People? Fatto... quella che mi ha fatto innamorare, io mi sono innamorata di lei da bambina al cinema, appunto i miei mi portavano a vedere queste cose. Che è anche un'attrice ironica, divertente, ma adoro Papà ti manda sola, quel periodo con Ryan O'Neill, eccetera. È fantastica, infatti lei in questo è veramente, è così poliedrica, sì, e torna poliedrica, questo termine. ci torna. E io rimasi folgorata veramente sul finale di Funny Girl, quando lei canta My Man. E ovviamente People è la canzone che ho cantato di più fin da piccola. Tu sei 5 anni la Bohème, 7 no, beh, anni lì ne avevo 12, ero già piccola. Grande. Come fa My Man? Lo so che non sei scalda. Oh my man, a loving soul, he never know. Oh my love is just despair, but I don't care. Mancano gli strumenti, ma è come se ci fossero, eh? Incredibile. People. People who need people, they're the luckiest people in the world. Ed è in diretta tutto questo, eh? Non abbiamo delle tracce a cappella, no, della signora Pandimiglio. Mamma mia, sei un jukebox. Ci sei. Esatto. E mi vanno The Way We Were. The Way We Were. Mi ricordi ancora, anche quello. Un pezzettino. Memories, maybe beautiful and yet sotto il plazo. Misty watercolor memories of the way we were. Basta. Potete telefonare e scegliere la canzone preferita e lei vi farà tutto quello che volete. Grande professionismo, messaggi di grande apprezzamento. Donatella, la tua voce mi trasmette tranquillità. Si sente che sei una donna bella e ben educata. Ah, grazie. Sì, sì, no, infatti si capisce il contrario dal conduttore, invece. Ma che stai maleducato dicendo? E poi hai lavorato anche, a parte con Gigi Proietti nei Sette Re di Roma, certo. Poi hai avuto altre esperienze con il grande Gigi, anche tu, perché oggi molta gente di quelle che sono venute qui hanno lavorato con Gigi Proietti. Allora, io no, e lo amo profondamente. Allora, io ho lavorato con lui al Sistina, dopodiché ho insegnato nella sua scuola, sì, con lui, e poi lui mi ha prodotto il mio primo grande recital con la sua regia nel 97. E poi insomma abbiamo fatto altre cose, ma insomma devo dire che in quegli anni, tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90, abbiamo fatto molte cose insieme, molto belle. Poi c'è stato un altro grandissimo con il quale hai lavorato, sempre al Sistina, e il titolo era Insegnami a sognare, ed era una persona che mi pare di conoscere. Sì, grande, forse il migliore, forse come the best, sì, the best. Forse il più bello, non bravo, ma no, il più bello sicuramente. Ma abbiamo anche cantato insieme. Sì, quello mi dispiace, perché da lì c'è stato un momento in cui tu hai dovuto risalire la china per dimostrare che eri molto più brava di come ti facevo apparire io. No, c'era un momento in questo spettacolo che abbiamo fatto insieme, devo dire, bello, di grande emozione. E Donatella, io gli chiesi in punta di piedi, siccome si parlava della televisione, anche questo è un motivo che torna ricorrente in me con questo spettacolo che sto facendo al Teatro Ghione, e dovrò scappare subito perché comincia alle 5:15, per cui col motorino spero di non beccare traffico e arrivare di corsa. Anche lì parlavamo di questo sogno meraviglioso di una televisione che non c'è più e dei grandi, e alla fine c'era questa bellissima canzone che è Soli di Mina, che è anche la meno conosciuta, ma forse una delle più belle. Delle più dico, belle. Ti va, Donatella, di entrare magicamente alla fine e con il filmato alle tue spalle gigantesco di tutte le persone meravigliose che ci hanno accompagnato in questi lunghi anni di teatro, di televisione, di cinema, che non ci sono più, proprio erano poi lì al Sistina, un filmato inedito, e usciva Donatella e ci accompagnava nel finale dello spettacolo con questa meravigliosa Soli, che io ascolterei molto molto volentieri. Soli, mentre la gente se ne va, restiamo soli, soli nel buio che verrà. Verrà per noi, il giorno se ne va. Soli nel buio, soli nel buio che verrà. Tu sei con me finalmente, tu sei con me per tutto il mio giorno, sai, non ho vissuto mai, cosa sarà di Lasciamoci accarezzare così, sembra più una trasmissione notturna. Esatto. Però è bello, dai. Esatto. Adesso chi non si sta rilassando, si sta rilassando senza il calcio, questo può essere un momento veramente da divano dove ascoltare, lasciarsi coccolare da questa bella voce, da questi bei suoni. Speriamo anche che Mina ci ascolti, lei è molto attenta a tante cose. Io conosco molto bene Massimiliano Panica, avrò prestissimo qui. Bene. Da noi a Voice Anatomy, che è un ragazzo, un uomo ormai, ma veramente una persona. All'inizio degli anni Ottanta, avendo io fatto la gavetta quella vera, quindi ho fatto anche la corista, ho fatto tutto, e ho avuto l'onore e il piacere di andare a Lugano e fare i cori per un disco di Mina. Ah, per cui hai avuto modo di incontrarla? No, ho incontrato il figlio, il padre. Sì. Con Victor Bach, che era l'arrangiatore in quel momento, ma lei purtroppo non era in sala quando sono andata. No, così l'ho sfiorata perché è molto amico di Massimiliano, e fino all'ultimo respiro con Radopani, che io ho amato profondamente, anche tu hai conosciuto. Come no? Molto bene. E che cosa ti piacerebbe interpretare? Hai fatto tanto, stai facendo tanto, qual è il prossimo... Io diciamo che ho nel cassetto una cosa che sta, speriamo, in procinto di decollo, molto molto bello come progetto, che riguarda un grande mito. Un grande mito del cinema hollywoodiano. Cantava? No. Anche. Liza? No. No. No. No, ma non lo posso dire. Scrivete, per favore. Lo posso dire, incrociamo le dita, speriamo che si riesca a fare. Speriamo che ci sia come un Pino Quartullo che ha avuto quell'intuizione. Qua ci sono diverse persone già pronte dietro, è già stato scritto il testo, c'è un grande regista che musiche vuole fare. Sono quelle di questa grande, fai a non dire il nome? Non lo posso neanche dire. Neanche il cognome, non si può dire perché è giusto che... Non lo posso dire, però speriamo di vederci presto. Sto Judy poterlo Garland, dire perché non, so non è Judy Garland. Garland, no, non sto giudicarla io, però penso oggi non ho detto neanche i numeri, mi sono dimenticato completamente di aprire la trasmissione con i nostri social, Facebook, eccetera. I numeri, beh, ve li dico, anche se manca poco, una mezz'ora alla fine della trasmissione. Comunque 349-238-6666 sono gli sms, ma sono numerosissimi. Grazie Francesca, mi fa complimento anche quando parli, ridi e si sente che sei ben educato. Grazie Francesca, non dice la stessa cosa a mia moglie e non diceva la stessa cosa a mia madre. Numero verde per partecipare in diretta, se volete, 800-2400-24. E insomma, non ce lo dici. Non lo posso dire ancora, ma spero di poter venire qui e dirlo. Esatto, perché per io vorrei, primi a voi. Vorrei riaverti anche per fare piccoli tutorial sullo studio della voce, anche perché qui si alternano anche dei bravi insegnanti, l'altra settimana bravissime a spiegarci il sovraglottite, il sottoglottite, la voce estrema. Sì, bellissimo. Poi la prossima settimana tornerà Diego Cossu, un grande chirurgo dell'apparato, delle corde vocali e quant'altro. Poi un amico di questa trasmissione, abbiamo fatto insieme un percorso su Demetrio Stratos bellissimo. Lì è veramente anatomi. Lì è proprio anatomi. Proprio veramente. Anatomi, nel senso vero. Insomma, non vuoi dire, se ti chiedo il personaggio che vorresti interpretare, non muovo di perché è sempre quello. Ma diciamo che. Hai mai avuto un problema alla voce? Beh, l'ho avuto quando mi sono venute le laringiti, che vengono anche alle grandi cantanti. Sì, ma quello prende per un colpo di freddo, non perché hai usato male. No, usata male mai, grazie a Dio. Ehi, James Bond. Grazie a Dio. E allora siamo arrivati. Io vorrei anche, pensa, dimmi, uno dei sogni nel cassetto di doppiatrice è doppiare un cartone animato. E quello sarà più facile, poi canti, per cui lo faremo presente a Monica Ward, che è molto vicina a quel mondo. È lo fantastico. Faremo presente. Sì. Intanto grazie Donatella, grazie il nostro tempo, e io ti utilizzerò. Vieni intanto in teatro a vedermi come torni da Londra, e perché alla fine tu soli la canterai su quel palco. Bene. Te lo dico finta adesso. Signori, a tra pochissimo con l'amico Frank Merenda, ci accompagnerà fino alla fine della trasmissione, a tra poco con Voice Anatomy. Grazie. Voice Anatomy. Signori, 16:32 primi e 7 secondi, Voice Anatomy. Frank Merenda al mio fianco, stavolta non soltanto come accompagnatore in questa bella trasmissione, ma come protagonista che già abbiamo avuto, perché lui è veramente straordinario. Nel senso, io ho avuto il piacere di condividere con lui delle presenze sceniche incredibili. Lui è il comunicatore più forte che io abbia mai conosciuto, proprio per quanto riguarda poi la vendita, che poi è fondamentale, la voce, la presenza, il corpo, il modo di essere, soprattutto l'ironia. Il corpo, perché... sì, no, l'ironia che tu hai profonda, ma lo conoscete perfettamente. Ogni volta che lui viene ospite, succede qualcosa, il podcast più scaricato della settimana diventa Voice Anatomy. La cosa mi dispiace un po', però te non posso inviare, vieni da Lugano, cioè non posso avere la scusa che siamo amici, vieni perché voglio che il podcast sia il più scaricato in Italia. Tu sai perfettamente che l'affetto che ci lega e la stima professionale va al di là. Però ti devo chiedere di parlare male di me durante la puntata, perché c'è della gente che si lamenta, dice: no, ma tu quando sei Frank parli bene di lui. Ho detto: no, parla bene di tutti gli altri ospiti, quando arriva Frank offendigli la mamma. Esatto, ma non che devi fa, cioè, posso invitare chi mi sta antipa? Sì, perché è giusto anche come leggere i messaggi negativi, ci sta, ognuno di noi ha i lati negativi, ma non è una sua psicanalitica in cui uno deve mostrare i propri difetti e i propri limiti. Il suo lavoro è bello, è affascinante, e credo che tu sia stato uno dei primi grandi motivatori che ha questa nazione. Ma non te possino come motivatore? Come no, motivatori, perdonami, motivatori, io non so come chiamarlo, perché tu fai di tutto, veramente, da quel punto di vista. Per cui, qual è la cosa più importante? Cioè, cosa fai tu, Frank Merenda? Cosa faccio? Allora, tra le tante cose, focalizziamoci su qualcosa che può essere utile alle persone, che è l'attività di divulgatore, semplicemente di marketing e vendite. Io sono il Piero Angela del marketing e delle vendite. Che bello, con la musica. Metti aria sulla quarta corda, per favore. È vero. Sì. Quello è. E poi sei anche un brand manager, tu hai anche dei brand molto importanti in Italia, come quello di Posta Power, e non solo. Poi, tanto per divertirti, c'è questo, sei presidente dell'MMA, che è questa follia sull'ottagono dove la gente si stacca le braccia e cemena quello davanti, insomma, dove io ho la fortuna e la sfortuna da un punto di vista soltanto visuale di fare il presentatore di questi eventi, dove tu sei soltanto un grande amante, insomma, poi non è che lo pratichi in fin dei conti. Sì, no, sono stato un pioniere verso la fine degli anni 90, quando praticavo. Poi il business ovviamente ha preso il sopravvento e sono rimasto un fan della disciplina, quindi appena ho potuto ho cercato di ridare qualcosa indietro, ovviamente creando questo evento per i lottatori italiani. Poi si è espanso all'estero, abbiamo creato Venator Fighting Championship, adesso siamo riusciti a creare quella che è la card considerata dalla stampa mondiale, probabilmente una delle card più importanti d'Europa di sempre, quindi stiamo ottenendo. La cosa strana è quello di cui parlavamo ogni tanto anche io e te, no? Il concetto strano dell'Italia. Nel mondo io solo nelle ultime settimane ricevo interviste, citazioni, articoli, tutti i più importanti media sportivi del mondo, o in Italia uscisse una mezza riga su un giornale. È così, è come su di me, esce fatto che farà la Lazio, ma si dimentico di chiederti cosa stai facendo a teatro, cosa stai doppiando, che cosa presenti in televisione. Ma è così, uno è profeta sempre fuori patria. Ma quando ci sarà il prossimo MMA che mi riguarda? Perché a proposito di Voice Anatomy, essere il presentatore dell'MMA è una follia, perché c'è il grande presentatore americano che è il capostipite, che utilizza una vocalità estrema. Bruce Buffer è un pazzo, un pazzo, e ora stacca la testa. No, ma cosa, la gente impazzisce, è una follia vocale per quanto mi riguarda. Lui però, per esempio, stando nella trasmissione, è un grandissimo esempio di uso particolare della chiaramente voce. Della voce. Sì, è un cantante, non è un grande interprete veramente. Lui nel mondo è diventato una rock star ritagliandosi quello spazio nella creazione di quel tipo di liturgia. Lui l'ha inventata, quell'uso della voce. Non dico che l'ha inventato lui, però lo utilizza in maniera estremamente anche tu particolare. Sei una rock star nel mondo della comunicazione, però sì, allora, vabbè, se vogliamo utilizzarla questa... beh sì, vai, conferenze partecipano veramente centinaia, certe volte anche migliaia, considerando quante ne fai in tutta Italia. E se è una fregatura, la gente non verrebbe così in tutti questi anni. Se sei molto bravo a fregare, magari vengono comunque. No, vabbè, la seconda volta, forse, ma non è così. È come a teatro, se li freghi una volta, non vengono più a cercare parcheggio, a ricercarlo sotto casa, a spendere i soldi. No, no, no. Quanto è importante l'aspetto vocale nella comunicazione, Frank? Allora, ci sono degli aspetti che sono fondamentali, soprattutto secondo me sono importanti da trattare riguardo all'Italia. Perché? Perché in Italia noi abbiamo nel marketing stesso, oggi ci sono degli strumenti, non dico nuovi, ma degli strumenti che vengono utilizzati più comunemente dalle persone, soprattutto sono più adatti alla piccola, alla micro, alla piccola impresa italiana, che sono strumenti dove la voce è fondamentale. Pensiamo ad esempio ai podcast che cominciano a essere utilizzati. Tu hai un podcast molto importante che è sempre veramente molto scaricato. Sì, si intitola? Sì, quando riusciamo a farlo, si chiama Business Caffeina, ecco. È il mio podcast insieme al mio socio di disgrazie, Pier Nicola De Maria, ed è assolutamente il podcast business, quando lo facciamo, più ascoltato in assoluto in Italia. E così... Io posso intitolare Voi sanatomi caffeina, Voi sanatomi caffeina, uno spin-off del tuo, va bene. E a parte gli scherzi, poi ci sono per esempio i video con YouTube ha reso democratico anche la possibilità delle persone ovviamente di promuoversi, le piccole aziende, creare video, gli imprenditori, i venditori possono utilizzare tutta una serie di strumenti che una volta erano appannaggio delle grandi aziende, perché per fare un video non potevi farlo, cioè o eri in televisione, avevi creato quindi un advertising, una pubblicità vera e propria, oppure non potevi farlo. E questo comincia a creare delle problematiche, nel senso che nel marketing la cosa più importante è, in assoluto, si parte dal posizionamento nella testa delle persone. Quindi le grandi aziende, i grandi brand innanzitutto sono grandi perché sono riusciti a ritagliarsi uno spazio come leader in una particolare nicchia all'interno delle persone, della testa delle persone, e possiedono un concetto specifico all'interno della testa delle persone. Possiamo fare un esempio semplice nel mondo dell'automobilismo, cioè macchine che si assomigliano che però possiedono concetti diversi nella testa delle persone. Se pensi siamo a BMW, possiede il concetto del piacere di guidare, Mercedes per esempio possiede il concetto di prestigio, Volvo possiede il concetto di sicurezza nella testa delle persone, quindi macchine tutto sommato simili, però hanno il loro concetto sì. Questo vale per tutte le grandi aziende che sono riuscite a possedere un concetto nella testa delle persone, una nicchia viene presidiata da un concetto. Questo vale in realtà, ed è una cosa... Poi rischi però di rimanere prigioniero di quel concetto, non riesci più a allargarlo magari, no? Sì, ma lo scopo in realtà è proprio rimanere prigioniero, cioè il paradosso del marketing è che, per assurdo, più rimani prigioniero di quel concetto più sei polarizzato, cioè possiedi tutte le persone interessate a quella nicchia. Si chiama legge del sacrificio nel marketing. La legge del sacrificio è bellissima. Cioè io scelgo un certo tipo di target sapendo che dovrò rinunciare a quel posizionamento è mio e guai a chi me lo tocca. Esattamente, quindi tu presidi quello sapendo che devi rinunciare ovviamente a qualche cos'altro. E questo nell'utilizzo della voce è molto importante. Perché? Perché oggi abbiamo tutta una serie di persone che si approcciano a questi nuovi media, a questi nuovi strumenti, con una serie di limitazioni però derivate dal fatto che non siamo educati a utilizzare la voce, e siamo tra l'altro soggetti a un altro problema che è tipico italiano, che esiste anche nel resto del mondo ma in maniera più blanda, nel senso, noi in Italia abbiamo il problema del dialetto. Certo. È un grande problema, nel senso che tu mi hai visto per esempio, va bene mantenerlo, la tradizione, però sì, professione sì, non è una critica al dialetto, assolutamente, okay? No, infatti lo volevo sottolineare apposta. Io per esempio, che non so utilizzare la voce in maniera veramente professionale, in maniera corretta, che cosa faccio? Questa cosa invece non dovrei farlo ma la utilizzo, perché quando vado in tour, ovviamente, per creare delle caratterizzazioni delle persone, scherzare su un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di venditore, un certo tipo di persona, ovviamente la scimmio attraverso il dialetto, perché è la via più semplice, che è la cosa anche che tu giustamente critichi invece quando si fa teatro, sì, oppure si entra nel mondo del doppiaggio. Sono scorciatoie certe volte per raccontare un carattere, sì, e invece puoi raccontarlo con l'interpretazione, ma da un punto di vista tuo è diverso. Insomma, sì, no? Chiaramente. Però io lo uso per scherzare. Qual è il problema invece che abbiamo in termini di limiti professionali? Che Il brand, cioè il posizionamento nella testa delle persone, anche per i prodotti, nasce da una ipersemplificazione che noi potremmo anche chiamare pregiudizio, per esempio, in maniera corretta, nel senso io devo riuscire a creare un pregiudizio sul mio prodotto nella testa delle persone. Ti faccio un esempio sciocco: la classica diatriba sulla Apple, non la Apple, sono i prodotti migliori, non sono i prodotti, non lo so, però intanto nella testa di... ho creato questo pregiudizio per il quale Steve Jobs era un mago e quindi ciò che lui toccava diventava qualcosa di fantastico, che poi sia vero o no. Cioè, se tu prendi un tecnico può passare giorni a spiegarti perché un prodotto della Apple in realtà sia inferiore o non sia inferiore o sia uguale, però in realtà le vendite poi danno ragione a questo tipo di discorso. Che cosa accade? Noi accade che quindi con il dialetto in Italia abbiamo un altro tipo di problema, nel senso che il dialetto di per sé crea un pregiudizio rispetto allo stereotipo della persona. Perché? Perché ogni tipo di dialetto in realtà è associato, se è molto marcato chiaramente, a un certo tipo di pregiudizio, che non è una cosa corretta, però funziona così. Certo. Quindi cosa succede? Io quando per esempio vado in giro con i miei ragazzi, sono stato adesso in tour a Roma, sono stato in tour a Napoli, la vengo e scimmiotto ovviamente, certo, in maniera simpatica, certo, la calata romanesca, la calata napoletana. Però qual è il problema? Il problema è che se tu vai, fai un podcast e cerchi di diffondere informazioni sul tuo servizio, sul tuo prodotto, e hai un accento marcatamente siciliano, è siciliano per le persone che sì, non l'immaginario sono... collettivo racconta una realtà particolare, certo, il napoletano un'altra, il romano quella della prosopopea, Cacciarone, quello del nord è freddo e distaccato rispetto al sud e al centro, per cui c'è questo pregiudizio. È un grosso problema, cioè nel senso, vero, anche per esempio delle persone che hanno nel mio settore magari della formazione dei contenuti estremamente interessanti, no? Però magari hanno un accento marcato per dire napoletano, e le persone del nord questa cosa, non perché abbiano qualcosa di razzismo reale, ma semplicemente perché il brand è pregiudizio, ok? Quindi uno che ti spiega business, non fa così ovviamente. No, certo, però... non è scimmiottare, okay, stai raccontando qualcosa di diverso. Però in realtà lo fa con questo tipo di accezione, questo tipo di posizionamento nella testa delle persone è un problema. Quindi secondo me stiamo entrando in una fase nella quale l'educazione all'uso della voce diviene fondamentale, nel senso che io da un certo punto di vista sono anche fortunato, perché pur essendo diseducato in realtà a livello dell'uso della voce, sono riuscito sforzandomi ad avere, nonostante ovviamente la cadenza, la cantilena, che andrebbero lavorate e smussate, però c'è quella punta di accento emiliano che tendenzialmente è simpatico. Sta in mezzo, è quello simpatico, sì. Sì, te la cavi, sì, ok? Sì. Cioè, nel senso, te la sfanghi sempre, no? Ma soprattutto quando sei pieno di concetti, poi anche, vero, sì, insomma, sì, leggera calata. No, te la puoi cavare, però mi rendo conto che magari se io avessi un forte accento calabrese, poi spiego così, cioè... Senti, cosa sta facendo? Diventa più... Certo. Diventa più difficile ovviamente riuscire ad avere... Ma infatti il prossimo step è proprio del venditore o della persona che deve comunicare un brand, sì, importante, che ha contatti con il resto dell'umanità, è quello di avere un'educazione vocale importante. Sì. Cioè, non, ovviamente all'inizio sembri affettato proprio come il salame, nel senso, sei tutto attento, finisci i verbi, è un po' forzato, ma devi cominciare così. Anche io quando ho cominciato, amici miei dicevo, ma che sta parlando, eccetera. Però devi assolutamente impararlo, e quello è uno step che poi si farà. Tu poi sei stato proprio l'unico, leggo, studente italiano di Arrise, che è il padre del brand, del posizionamento del brand. Posizionamento di marca, sì, posizionamento del brand. Tra l'altro Riz, volevo fargli i complimenti in diretta, anche se lui non ci ascolta perché ovviamente non capisce. È tornato in quel dell'America, però Riz è stato tre settimane fa è stato introdotto nella Hall of Fame del marketing. Quindi e tu l'hai avuto come, sì, padre per una giornata a, sì, Roma, in uno dei tuoi grandissimi, sì, eventi. È venuto due volte, è venuto una volta a Bologna, è venuto a Riccione, tornerà anche l'anno prossimo. Quindi, sono geloso. Basta il riso. Poi c'è anche Dan Kennedy, che è il Titanium Group, che poi il Titanium è il prossimo corso che tu farai per pochi. Sì, diciamo, io da Dan ho preso questa idea, quindi in Italia ho riportato un work group piccolo per studenti molto avanzati che vogliono lavorare in maniera specifica sul marketing della loro azienda, del loro business, alla quale tu farai parte in realtà. Lì parleremo di voce e di educazione vocale. Sì. E allora andiamo all'ultimo blocco pubblicitario per tornare insieme e poi io fuggire a teatro, abbraccio Frank idealmente, perché fuggirò senza salutare nessuno. A tra poco con Voice Anatomy. Pantera Millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta Voice Voice Anatomy. Ancora qualche minuto con Frank Merenda per poi collegarci soltanto pochi secondi con gli amici del calcio, perché non ho belle notizie da ricevere, ne ho avuta adesso una durante la pubblicità, ma ero sicuro, il risultato che avevo detto già ieri in anticipo sui tempi, non bisognava essere una megera o una strega per predire questo tipo di futuro. Mi piace questa domanda. Nel corso del tempo è cambiato il modo di presentarsi di un professionista e di un'azienda? E quali ritieni siano gli strumenti più utili al fine di presentare se stessi o la propria azienda al pubblico o a potenziali clienti? È cambiato assolutamente, soprattutto negli ultimi anni. Nel senso, una volta c'era la tendenza, parliamo dell'Italia, di per le aziende, per i professionisti, di, in gergo tecnico si dice, presentarsi a freddo. Che cosa vuol dire? Lo spiego in un secondo. Nel senso che una volta il venditore girava e faceva quello che era noto come il porta a porta. A freddo si dice: una persona che non mi conosce, non ha sollecitato un mio contatto, io vado comunque a incontrarla e cerco di spiegargli la mia azienda, il mio prodotto, cercando di vendergli. Il one to one. Il one to one, in maniera ipersemplificata. Oggi questa parte esiste assolutamente, si vende sempre personalmente, ci mancherebbe. Però è cambiato il tempo nel quale una persona raccoglie informazioni su di te, raccoglie informazioni sulla tua azienda, raccoglie informazioni sul tuo prodotto, sul tuo servizio, e quindi è molto importante per le aziende, per i professionisti, per i venditori, per i responsabili marketing, fare una cosa di presentazione che è quella di condividere in anticipo del contenuto. Per questo, tornando a quello che dicevamo prima, si fanno i podcast, per questo si fanno i file audio, per questo si fanno i video, per questo si fanno i report, e in modo che le persone, prima ancora, oggi c'è un dato molto importante, circa il 67% della vendita, questo è uno studio non mio ma dell'Harvard Business Review, quindi una rivista assolutamente autorevole, viene effettuato prima ancora di incontrare il cliente, o meglio ancora dall'altra parte, prima ancora che il cliente incontri il venditore. Perché? Perché ha già raccolto tutta una serie di informazioni che prima, nell'era pre-internet, non si poteva fare. Sembra tutto più facile, ma non lo è però. No, non lo è affatto, perché i clienti oggi hanno molto più tempo per educarsi, hanno molto più tempo per programmarsi, hanno molto più tempo quindi per scegliere. E quindi diventa fondamentale poter padroneggiare quegli strumenti di cui parlavamo prima, nei quali la voce la fa veramente da padrone, per i motivi che spiegavamo prima. Quindi in tutti i nuovi media che sono utili alle aziende per vendere, la voce è centrale. È fondamentale. Beh sì, ma credo che proprio la voce sia proprio l'unione, proprio la più grande elemento di comunicazione che possa esistere, più di un bel corpo, anche se qualcuno dice vabbè sta zitto, va bene pure un bel corpo, sì. Insomma, vabbè, per essere leggeri e superficiali, ma nel tuo campo è estremamente importante. Per questo mi piace moltissimo condividere con te questa bellissima avventura. Io non so se dobbiamo collegarci con Capuano. Io voglio ritardare il più possibile questo collegamento, perché cioè, lui ha vinto ieri, io ho perso oggi con lo stesso risultato, ma per cui, nonostante tutto, vabbè, almeno non ho visto le immagini, non sono, ma ero sicuro che andasse così. Adesso Frank, prossimi impegni? Prossimi impegni abbiamo Marketing Merenda. Che Merenda fa ridere. Fa ridere, però, veramente. Fa ridere Marketing Merenda. È colpa Merenda. Di Orris, però, non è colpa mia. Ha riso, ha dato lui il titolo. Ha detto devi chiamarlo così, fidati di me. Ma lui sa che è breakfast, è la stessa cosa. Sì, cioè, lo sa. Insomma. Gli ho detto, posso chiamarlo Marketing Snack? No, non puoi. Non puoi. È come se io mi chiamassi Joe I Teach. Joe I Teach, così uguale. Giuseppe Insegno, stessa no? Cosa. Esatto, Marketing Merenda. E dove sarà, quando sarà, che già sarà tutto esaurito, ovviamente. Sì, lo faremo dal 28 di aprile al 1 di maggio, sarà al Palari. Tutto pieno, ovviamente, quindi sì, non c'è problema. Sei peggio di una rockstar. Io sarò presente? Tu sarai presente come io sempre. Sarò presente, sì. Però vengono perché ci sei tu. Allora, sì. Mi fai una cortesia prima, sì, di collegarmi con il calcio? Mi dici che sarò al Teatro Ghione già da una settimana, ma fino al 17 con questo spettacolo che tu hai visto poi ieri sera. Ieri sera sono venuto a vedere questo spettacolo che è meraviglioso, non è bello, è meraviglioso. È Frank Merenda che parla, per cui accendete i podcast, scaricate tutto quello che potete a Roma. E dov'è? Al Teatro... Teatro Ghione, abbiamo detto. Sì, sì, esatto, sì. Esatto. Alle ore? Alle 21 cominciamo? Sì, cominciamo, perché poi facciamo tutto insieme. Io mi metto là dietro le quinte. Sì, sta con me ormai. Ieri facevo i filmatini mentre provavo. Hai fatto di cose, è vietato. Lo so, ma io cioè, non me l'hai postati pure? No, non mi promettere mai, figurati. Bugiardo, l'hai postati, ma dai, non l'hai fatto. Mi hanno pure ripostato quelli del teatro, erano contenti che avevo postato. Certo, io sto lì a farmi rimbalzare i posti. Rimani qui con me che sentiamo Capuano cosa ha da dirci. Eccomi. Sì. Cosa vuoi sapere? È finita l'Olimpico? No, non è finita. È non questo, è finita. Questo mi dispiace. Però è ancora in bilico. Ma in bilico? 3-1? No, 4. 4-1 per la Roma, ha segnato anche Perotti qualche istante fa la rete del 4-1. Ma ecco qua, a difesa è strano che non abbia sentato, segnato anche Swarovski, come si chiama? Sì, ma in realtà è stata una partita strana. La Lazio non ci ha creduto. Per oltre un'ora c'è stata soltanto la Roma in campo, ha segnato con El Shaarawy, poi ha trovato il raddoppio al 19° del secondo tempo con Dzeko. A quel punto per 10 minuti c'è stata solo la Lazio. Ha colpito un palo, una traversa, ha chiesto un rigore, ha segnato con Parolo, ha messo pressione, poi improvvisamente la partita è di nuovo cambiata, è finita lì. Ci sono stati i gol di Florenzi e quello di Perotti, adesso siamo nelle ultime battute di gioco, però destino segnato. Totti non è in campo, immagino. Totti non è in campo, era in panchina. Poi piano piano Spalletti ha effettuato anche i tre cambi, l'ultimo quello di Zukanovic per Salah proprio pochi istanti prima del 3-1 di Florenzi, nel momento in cui la Roma stava soffrendo. Basta Capuano, va quindi bene niente così. Niente Totti, questo mi dispiace, insomma, questa diatriba che porta via un po' di romantico alla figura del grande capitano. Che succede negli altri campi invece, il Milan eccetera? Sugli altri campi succede che il Milan sta perdendo 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, siamo in tempo di recupero, mancano ancora 4 minuti prima del fischio finale. Milan che vinceva con Luiz Adriano su rigore, poi sono arrivati i gol di Piniglia, una meravigliosa rovesciata, e poi nella ripresa il gol del Papu Gomez per il 2-1. Sono contento per Reia e Bollini, moltissimo. Sì, Atalanta che è quasi salva, sale a quota 36 punti se finisse così la partita. Poi c'è l'1-1 tra Fiorentina e Sampdoria, altro risultato pesantissimo. Qui siamo al 44esimo del secondo tempo, quindi non siamo ancora in tempo di recupero. Ilicic ed Alvarez con la Samp che in questo momento è in 10 uomini. C'è il Chievo che sta chiudendo 3-1 con il Palermo, risultato molto duro per il Palermo che in questo momento è terzultimo. Ci supera pure il Chievo adesso, cioè, e il Sassuolo rischia di sorpassare il Milan. Pensate che bel in questo momento il Chievo comunque è dietro un punto rispetto alla Lazio, il Sassuolo è dietro un punto rispetto al Milan. Esatto. Stanno correndo per il sesto posto. L'ultimo risultato che manca è Genoa-Frosinone 4-0. C'è da raccontare la tripletta meravigliosa di Suso, un gol più bello dell'altro per l'ex milanista centrocampista spagnolo. Domenica ricca di gol anche il Napoli, ricca 3-1, di gol, è finita 3-1 il Napoli, e poi c'è il Napoli che è crollato a Udine. Ci sono tonnellate di polemiche di cui parleremo, perché Sarri è tornato sul tema del calendario e degli orari delle partite. Secondo lui hanno queste come le scuse che mettiamo noi a teatro, c'è il derby, il teatro è vuoto, è bello lo spettacolo, il teatro è pieno. Non sono mai d'accordo su tutto questo, ma è una convenzione che si utilizza, per cui va bene per tutti. Per cui la Roma sta un passo anche dal secondo posto a questo punto. Guarda, la Roma a questo punto è a 4 punti dal Napoli. Va ricordato però che il 25 aprile c'è Roma-Napoli all'Olimpico. Ti do un dato da cui partiremo dopo, oltre a parlare ovviamente del crollo del Napoli. La Roma nelle ultime 10 giornate, cioè da quando è iniziato la grande rimonta, ha recuperato 8 punti alla squadra di Sarri. Sì, sì, l'avvento di Spalletti, devo dire, ha motivato un po' tutti. A proposito, no, Frank Merenda, qui non è, tu sei un motivatore soltanto, ma questo è proprio, ha dato il là a tutti quanti per poter credere in se stessi, o comunque i giocatori, poi lo sappiamo, insomma, non entriamo nelle polemiche personali degli spogliatoi. Carissimo Capuano, grazie di queste grazie bellissime notizie che tu mi dai ogni domenica. In bocca al lupo per la tua bellissima trasmissione e agli altri fantastici tuoi compagni di viaggio. Buona domenica. Domenica anche a te. Prossima andrà meglio, dai. Sì, yuhu, ti ringrazio, ti aspetto a teatro. Un abbraccio. Grazie amico mio, un abbraccio a te. Frank, grazie di quest'altro pomeriggio insieme. Grazie. Utilizzo il microfono per salutarti, perché ancora 20 secondi dopodiché sto già sul motorino, ti metti al Teatro Ghione, visto che c'è un po' di gente, rischio la sommossa popolare per un ritardo. Grazie Frank, in bocca al lupo per questo percorso. Da domani vedrò su iTunes il podcast a che punto sta questo Voice Anatomy Merenda Caffeina, perché così è il titolo. Vediamo se dandogli questo titolo succederà qualcosa di più. Un abbraccio a te, grazie Alessandro dall'altra parte del vetro, grazie Gaia per il supporto, per tutta essere a capo della tua redazione, grazie Alessandro Navarro come capo progetto, grazie a Damiano Fabiani Berti per la sua collaborazione come autore, grazie a Sabrina di averti accompagnato, perché da solo non ce l'avresti mai fatta. Mai. Signori, Voice Anatomy finisce qui, ma torniamo domenica con altri grandissimi ospiti. Vi voglio bene, ci vediamo e ci sentiamo soprattutto domenica prossima.